È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Parenzo, c'è grande confusione dalle parti della maggioranza, tre manovre in non so quanti giorni, ripensamenti, diciamo che le cose sono più veloci, cambiano alla velocità di una sveltina, una cosa pazzesca, no? Che dici? Chi è? Pronto? Chi è? Pronto? Mi senti? Chi è? Cruciani, la Zanzara, ciao Cruciani. Ciao, come stai? Hai un bel programma, parlano molto in questo programma, è buono. Sì. Programma buono, questo, ne parlano moltissimo in giro. Sì. Ottimo. Sì. Mi dica, mi ha chiamato, mi dica. Sì, no, ma ha saputo di questa manovra come cambia, no? Beh, ho saputo, manovra finanziaria, è un chewing gum questa manovra, no, direttorissimo? Cioè, è un chewing gum, saputo di un chewing gum alla fragola in bocca, no, ad esempio, sì, lo compri, sì, metti in bocca, mastichi per un po' e sa sempre di fragola, poi via via il sapore sparisce e ti rimane solo sta chewing che non sai dove attaccarlo e nessuno lo vuole, no? Sì, per esempio questa cosa delle pensioni, del riscatto, i militari, l'anno di militare, e gli anni di università, sembrava tutto deciso. Una cosa vergognosa, tant'è che l'Europa ha già detto, ma di che state a parlare? Questo ha detto l'Europa, che state a poi parlare? Poi quando tu mi dici l'Europa, è sempre questa entità, l'Europa ha detto. L'Europa sono quelli che ci hanno risucchiato, sono quelli che per ora ci hanno salvato. Primo, questi signori, che tutti, questi eurocrati su cui tutti sparano, sono quelli che per ora ci hanno salvato. Un attimo solo, fammi sentire la chiarezza del presidente della commissione, anzi no, del relatore del PDL per la manovra al Senato. Sentirai che è molto chiaro sulle pensioni. Guarda, te lo faccio ascoltare, chiarissimo. Le pensioni. Mo sto stato a lavorare io. Guarda, io qui sto lavorando. Se saltano le pensioni, come le compensi? Non lo so, se salta, diciamo, è la stessa cosa che se adesso facesse il temporale per me. Siamo a lavorare. Azzolini. Ma che lingua parlava Azzolini poi? Perché l'Italia sì, non è che sugli accenti non voglio insistere, però uno insomma dovrebbe anche un minimo, no? Masticare, non dico l'italiano, ma insomma qualcosa di simile, o no? Caro Azzolini. Un percorso di italiano, magari anche al CEPU, non farebbe niente male, caro Azzolini, detto col massimo rispetto. Sempre il massimo rispetto. Civili, sempre. Politiche e militari. Vabbè, c'era un Bersani scatenato che magari sentiremo tra poco, però qualcosa sulla Lega ha detto ieri, non so dove era, a Piacenza, sì, evidentemente a casa si sente molto a suo agio. Trota e Alfano eredi, dice proprio così, non hanno il fisico. Sentiamo. Vuoi che Alfano si metta a fare il partito personale lui? C'ha il fisico per fare Berlusconi? Vuoi che il Trota faccia lui la cosa, il fisico? La Lega più rigida, questa è vecchia, era a Modena, la Lega più rigida del partito leninista. Vabbè, ma questo è una cosa che si sa, la Lega, il capo, tutte queste cose un po' scontate. Comunque, Bersani. Anche la Lega che se l'è data da partito leninista, ma il partito leninista c'ha qualche carattere, ma il partito leninista c'aveva degli organi che sarebbe perfino riuscito a cambiare Lenin. Vabbè, adesso no, non esageriamo. Siamo mica qui a smacchiare le guarda, no? Come ti dice carazzo? Siamo mica qui a smacchiare. Adesso la metafora tra la Lega e il partito leninista ci può anche stare, lo si dice da tempo, ma insomma quelli facevano arrivare i leader fino al moribondi a letto. In alcuni casi erano addirittura già morti, non si vedevano più, e quando il popolo diceva ma dove, com'è il leader? No, il leader sta bene, sta e poi insomma c'era la dictature, come si dice in francese, l'ho appreso dal signor Confalonieri l'altro giorno, come si pronuncia un po' questa parola, c'era la dittatura, insomma, no? Non è paragonabile, non da poco, non è che la dittatura e la Lega siano la stessa cosa, non esageriamo, caro Bersani. Di Pietro è tornato a fare un po' il bischero, Di Pietro alla Camera, credo, o no? dov'era? No, dove? Vabbè, comizio, le solite cose. Berlusconi non mi telefona perché non sto all'Olgettina. Vabbè, battute. Se la chiama, lei non risponde. Se mi chiama Berlusconi, sì, perché mi dovrebbe chiamare Berlusconi? No, per discutere. Mi capita via Olgettina, io scusi. No, per discutere. Abbia pazienza. Ma no, questo discorso se la chiamo, vuol dire tutto e vuol dire niente. Che mi devi chiamare a fare? Che colore dei capelli si è fatto? No, per dirmi, che mi devi chiamare a fare? Era uno mattina ad Arcore. Anche questo è vero, però scusa, che domanda è, discorso rispetto, ma benissimo. Però chi era discorso... cosa di uno mattina? Chi è? Cucuzza? Chi era? No, ma non lo so, ma uno di uno mattina, non lo so. Vabbè, ad Arcore, ad Arcore, quattro pseudo pensionati. Di Pietro è tornato a fare quello che fa sempre. L'altro giorno ad Arcore si sono riuniti 3-4 persone, qualche pseudo pensionato, eccetera, che hanno detto che faranno una manovra, ma non ancora l'hanno depositata. Quindi di quale manovra parliamo, certo, se non l'hanno manco depositata? Infatti questo è uno dei problemi. Non ancora. Gerardo Greco è l'intervistatore, peraltro mio compagno di classe. Eri compagno di classe di Gerardo Greco? A scuola, sì. Non è un crimine, non era compagno di classe di Totò Riina, abbi pazienza. No, cioè, certo, l'hai detto, è una notizia. Ma non è una notizia. Non è affatto una notizia. Cruciani, due punti, era un compagno di classe, vabbè, di Gerardo Greco. E vabbè, è così. Vabbè, tanto abbiamo detto comunque. Don Mazzi, scatenato. Don Mazzi dice abolire i seminari, perché... No. Bisogna abolire i seminari perché dai seminari nascono i pedofili, sostanzialmente la cosa è questa. Sentiamo. Di questi casi di pedofilia che hanno scosso la Chiesa in quest'ultimo periodo, le risposte che la Chiesa ha dato, che Benedetto XVI ha dato, l'hanno convinto oppure no? No. L'errore incomincia nei seminari minori. La preparazione dei preti oggi non va più fatta nei seminari. È un luogo che castra, è un luogo anormale, non è un luogo naturale. Per cui io abolirei i seminari minori. Caro Don Mazzi, ci sono i preti pedofili, come, e allora che facciamo? Eliminiamo i seminari? Non so, vabbè, comunque. Ma no, sarebbe come dire aboliamo il peperoncino perché c'è il rischio che faccia venire le emorroidi. Non mi pare una roba intelligente, no? Che ne so. Ingegner Castelli, buonasera. Buonasera a voi. Ben ritrovato, come Dov'è? Sta? Come Dov'è sta? L'ingegnere? Dove si trova? Roberto Castelli, Lega Nord, viceministro delle infrastrutture. Vuole che mi trovi nel mio ufficio. Senta, ma che vacanze ha fatto, signor Castelli? Come nessuna, un po' di barca l'avrà fatta. Io avevo prenotato una bellissima vacanza in barca in Indonesia. Sì. Che stante la situazione politica, sociale, economica e finanziaria del paese, l'ho bellamente annullato. Sì. E quindi ho passato i giorni di Ferragosto, tranne Ferragosto, qui all'ufficio. Le ha dato un po' fastidio questa barca in Indonesia, tutto prenotato, soldi buttati. Insomma, quanto mi ha speso? Fastidio mi ha dato, ma noi lombardi abbiamo imparato, almeno io ho imparato da mio padre, che prima il dovere e poi il piacere. Però diciamo la verità, il fatto che siete rimasti, ma che è cambiato? Cioè, questo pure è vero, uno rimanda le ferie, spende un sacco di soldi e ancora stiamo da capo a 12 con la manovra. Cambiato, glielo dico io cosa è cambiato. Quando agosto ero qua, lo spread con i Bund tedeschi stava veleggiando verso i 400 punti, la borsa stava crollando. Appunto. Ieri abbiamo piazzato un po' di bot a tassi interessanti, oggi la borsa è salita del 3%. Sì, però voglio dire, qualcosa è cambiato. Se lei andava in Italia. Se lei andava in Indonesia. Vanno, giustamente, sentivo prima di Pietro, Bersani, un po' anche voi, d'altro canto tutti quanti devono pur tirare le quattro paghe per il lesso. E no, vabbè, adesso non è che ce non ci vede. Qualcosa devono pur dire, però invece quello che contano sono i fatti. Sì, però io volevo dire il fatto che lei ha rimandato. Adesso sembrano abbastanza tranquillizzanti, quindi speriamo che si vada avanti così. No, però... qualcosa siamo serviti. No, ma io voglio dire il fatto che lei ha rimandato, come altri peraltro, la vacanza in Indonesia in barca pagata, e un po' le ha dato fastidio. E... tanto non un po', però ripeto, prima il dovere poi sì, il piacere. Però voglio dire, non è che ha cambiato le sorti del paese questa roba qua, diciamo la verità, se lei fosse andato in Indonesia come altri in vacanza magari a Taormina o a Fregene non sarebbe cambiato nulla, non ma ci sarebbe dire di più, guardi, tutti sono necessari, nessuno è indispensabile. Ma no, ma non per lei, anche l'opposizione. Ognuno ha portato il proprio mattoncino per cercare di raddrizzare il paese. Vedremo in futuro se il mio lavoro che modestamente ho fatto in ufficio in questi giorni sarà valso qualcosa, ovviamente per un 60 milionesimo, visto che siamo in 60 milioni di italiani. ho cercato di portare il mio contributo. Questo no, ma io non volevo sì, dire che il vostro lavoro è inutile. Voi, dimmi, Parenzo. No, volevo dire, io mi immagino gli speculatori internazionali sulla borsa di New York, la borsa di Hong Kong, che dice: cazzo, Castelli va in Indonesia, ora abbassiamo lo spread. Ma che non è così. Ma resta il fatto che al di là delle giuste, simpatiche provocazioni che il buon Parenzo sta facendo, oggi la borsa è salita del 3%, quindi questo... siamo un po' più ricchi. Di 15 sì, ma non è che si chiedono dov'è Castelli. Questo è il dato, poi che sia merito il merito di tutti, evidentemente, però questo è accaduto, poi voi potete dire quello che volete. Però c'è una gran confusione. Quindi, ragazzi, no, diciamo un messaggio chiaro, scusa, Radio Confindustria sono 24. Dice, siccome c'è ancora, sono le borse aperte ancora a New York, rassicuriamo i mercati internazionali. Castelli è al lavoro nel suo ufficio, quindi speculatori, fate i brand, che Castelli è al lavoro. Non vogliamo sorprese a New York. Oggi la borsa è salita del 3%, ma non è che lei non farà piacere, perché Castelli è al lavoro. Vabbè, comunque la questione è anche un'altra, che c'è gran confusione. Sono responsabile per un 60 milionesimo di questa buona notizia. Dipendesse da noi, dipendesse da quello che facciamo, la questione delle borse di Castelli sarebbe Ma vede, invece qua voi sbagliate profondamente. Ma no, sull'andamento delle borse sto dicendo. Che i dati macroeconomici sono la somma dei micro comportamenti di ciascun cittadino. I dati macroeconomici, quindi certo, se tutti facessero qualcosa in più, alla fine i dati macroeconomici, il PIL e quant'altro salirebbe. Cioè, senta, un popolo laborioso fa un buon PIL. Ma questo sì, ma non c'è un questo popolo che lavora poco, che si aspetta tutto dallo Stato, fa un cattivo PIL. Ma questo, infatti, però la borsa è un'altra cosa. Questo è da vecchio, che sono molto più vecchio di voi, potrei essere padre di Parenzo. Mi sento di dire questa goccia di saggezza nei suoi confronti. Senta una cosa, ma ti voglio bene, papà. Ti voglio bene, papà. È una cosa pazzesca. Io un po' degenere, Parenzo. Insomma, fosse stato figlio mio, qualche legnata in più avrei dato. Come a tutti i giornalisti, l'ha detto pure Bossi, le legnate ai giornalisti, giù. Cioè, ogni tanto qualche legnata ai giornalisti va data. Senta, ma però bisogna dire che ancora c'è gran confusione. Cioè, questa cosa delle pensioni. Ma come? Le pensioni, prima l'anno militare, i 4 l'anno dell'università. Qua, dobbiamo depurare le chiacchiere dai fatti. Ma no, ma. Come? Sono proposte presentate e poi ritirate il giorno dopo. Ma dove? Ma come dove? Voi in continuazione, giustamente voi dovete pur campare. Ma non è che consiglio di campare, ma è così, l'avete presentata voi questa manovra e poi l'avete ritirata alcune norme. Infatti la manovra l'abbiamo presentata, la manovra in Senato è quella. Ma è saltata la norma sulle pensioni? Al Consiglio dei Ministri. Sì. Che adesso verrà emendata. Il resto sono tutte balle che raccontano i giornalisti. Ma come balle? Sì, giorno no. Verrà emendata. D'altro canto dovrete pur giustificare la vostra esistenza e il vostro stipendio. Ma scusi, Castelli, ma la questione delle pensioni, le norme sulle pensioni, l'avete presentate e poi adesso l'avete ritirate. Questo l'hanno detto i ministri. Le presentate dove? Mi faccio vedere un documento. Vabbè, ma adesso lei nega pure l'evidenza. Cioè, questa faccia vedere un documento. Ma no, beh, sono presentato adesso questo. Adesso lei sta scherzando. È evidente. Lo legga per radio. Ma è evidente che avete presentato una norma sulle pensioni. È evidente cosa? Va, come no, vabbè. Dov'è l'evidenza? È evidente che per esempio anche il figlio di Bossi ha partecipato per esempio alla riunione decisiva sulla manovra o no? Beh, questo è un dato di fatto. Ma perché ci va alla manovra decisiva sulla manovra il figlio di Bossi? Io vorrei capire perché. Ecco. Ci può dare una spiegazione logica, cioè politica? Lo staff che il nostro segretario federale si sente di dover portare a queste... Cioè uno staff di che tipo? Tecnico? Uno staff tecnico? Fa parte dello... Noi abbiamo un segretario federale, lei avrà un general manager di Radio 24, giusto? Sì, sì, no, per carità. Ecco, va a chiedergli chi si porta alle riunioni o no, se ne guarderà bene. Però non ci porta il figlio, credo. Lui ha diritto di portarsi chi crede, lo stesso il nostro segretario federale. Beh sì, ma è uno staff tecnico, questo voglio capire, uno staff così, uno porta... Adesso dobbiamo chiederlo a Boss, a me. Che dice? Me lo porta, un motivo ci sarà. E che ne so, il motivo ci sarà, certo, li vuole far imparare il mestiere. Non... Ma che ne frega voi, scusa, ho capito. Beh, comunque, come che ci frega? È un ruolo pubblico, va lì a un vertice del governo. Un vertice, lui è consigliere regionale, evidentemente porterà appunto il suo apporto, assisterà, non lo so. Ma non c'è un problema di familismo? Non mi pongo questo problema. In questa Lega, che era una Lega rivoluzionaria, quella che ho conosciuto anch'io, non c'è oggi un po' un problema di familismo? Insomma, io voglio molto bene a Renzo Bossi, secondo me è un grande ciclista padano, il più grande ciclista padano che esista, su Renzo Bossi. Che c'è il ciclista? Il ciclista padano, vedi che noi abbiamo un senatore, Michelino Davico, che va più forte di Renzo Bossi. Vabbè, allora... Ecco, però che c'entra? Cioè, questo ruolo di Renzo Bossi, come anche dentro la pancia della Lega un po' è mal vissuto, sì. Il figlio... il figlio del capo. Dobbiamo ribadire una questione che voi malignamente non sottolineate mai con la dovuta evidenza. Che dobbiamo... Renzo Bossi sta in consiglio regionale Lombardia, sì, perché ha preso i voti. Ma nessuno lo nega questo. Nessuno lo nega. È stato nominato. Ma nessuno lo nega. Vabbè, allora Renzo Bossi, da ragazzo 21enne, ha avuto il coraggio. Guardate che voi non avete mai provato, ma io ho provato tante volte. Per presentarsi a un'elezione, beh, non è come non è sottoporsi e andare ai cittadini a chiedere i voti, ci vuole un gran coraggio. Beh, ma se ti chiami Bossi, l'ha fatto, ha preso i voti e siede legittimamente in consiglio. Ma questo regionale. Nessuno nega che sia abusivo. Questa è la democrazia, il resto sono tutte palle. Oh, no. Ma se lei avesse un figlio, lo vorrebbe che lo candidato nella Lega Castelli Giovanni? Io c'ho un figlio. È partecipante ai vertici di governo. Io c'ho un figlio. E lo vorrebbe, se lo porterebbe. Lui non si è mai interessato di politica, ma se mio figlio mi dicesse, caro papà, anche non avrebbe neanche bisogno di chiedermelo. Voglio fare politica? Si chiederebbe che vuole interessarsi di politica, si interesserebbe di politica. Lei lo candiderebbe? Se lo ritenesse opportuno e se trovasse un partito che ritiene di candidarlo, si candiderebbe, chiederebbe i voti ai cittadini, i cittadini potrebbero eleggerlo oppure no. Ma avete accusato il traffico, devo dare il traffico, devo dare il traffico. Eccoci, eccoci qui di nuovo, la Zanzara 800240024, caro Parenzo, di ritorno dal bellissimo Trentino dove siamo stati due giorni. E due non giorni in vacanza, ma in vacanza a condurre la Zanzara in quel di Vedrò. E vogliamo chiedere all'onorevole Castelli, vice ministro della Lega Nord, una cosa che riguarda appunto la leadership. Poi passiamo alle notizie un po' più d'attualità. Sì. Però io ho una curiosità: siccome nel PDL si parla del futuro di del dopo Berlusconi, le primarie, il ruolo di Formigoni, eccetera, eccetera. Ecco, questa è però una domanda seria. Secondo lei il dopo Bossi. Il dopo Bossi, questo è fondamentale. Come si affronta? Per esempio, a lei non viene in mente, lo so, secondo me bisognerebbe fare il dopo Bossi, non so quando sarà, fra 100 anni, 150, 200 anni. Attraverso quale metodo, anche nella Lega, qualcuno prima o poi si dovrà porre questo problema, no? Cioè, le primarie, l'acclamazione Pontida, o un altro metodo, non so, lei se l'è posto questo problema? Posso spiegarlo in maniera pacata? Certo, certo. Questo lei mi ha detto una domanda seria. No, dai, sì, certo. Rispondiamo in maniera molto seria. Sì. No, io non mi sono posto il problema perché la Lega, sotto questo punto di vista, farà quello che ha sempre fatto. Cioè, noi facciamo dei congressi di sezione, dei congressi di circoscrizione, dei congressi provinciali, dei congressi regionali che noi chiamiamo nazionali, non ci sono dei congressi federali. Sì. Quando fra 100 anni Bossi deciderà di ritirarsi per godersi giustamente la sua vita, magari farsi gli affari suoi, faremo quello che abbiamo sempre fatto, faremo un congresso e lì verrà eletto un segretario federale. Dunque le primarie la Lega sotto questo punto di vista ha sempre fatto tutto in questo modo. Le primarie no, Per quanto i partiti hanno i congressi. Sì. Per quanto riguarda, diciamo, quelle che vengono normalmente chiamate primarie, sono, diciamo, l'indicazione per i candidati alle elezioni, e quindi anche per un eventuale diciamo leadership o quant'altro. Sì. Noi abbiamo sempre fatto una sorta di primarie all'interno del partito, cioè i direttivi provinciali indicavano attraverso consultazioni elettorali all'interno dei propri iscritti i candidabili alla Camera, al Senato, comunque al Consiglio regionale. Vabbè, insomma, per la leader, per leadership farete un congresso. La Lega, sotto questo punto di vista, è veramente un partito democratico. Senta, però in Libia, in Libia ha sempre eletto i suoi organismi. In Libia è andato un po' diversamente da come pensava lei. Dalla nostra profezia. La sezione della Libia non c'è, la sezione della Lega in Libia non c'è mai stata. No, lo so, no, adesso sto parlando di un altro argomento. In Libia è andato un po' diversamente da come pensava lei. Alla fine lei ha avuto torto. Insomma, lì Gheddafi ormai praticamente lo stanno. È spacciato. È spacciato. Vuol dire ha avuto torto. Beh, lei è sempre stato contraio all'intervento. No, io sono stato contrario, se non si ferma tutto. Adesso, certamente. D'accordo, però questo intervento, su cosa? L'intervento alla fine forse un risultato l'avrà ottenuto, cioè quello di eliminare una dittatura. No, sì, lo valuteremo fra qualche anno. Secondo me lì noi ci stiamo costruendo un Afghanistan a due passi da casa. Ah, lei dice? Spero assolutamente di sbagliarmi e spero che potremo trovarci fra 2 o 3 anni. Che lei mi possa dire, caro Castelli, hai avuto torto, io possa dire, caro Cruciani, hai ragione, ho avuto torto. Cioè questa nuova leadership che incontra anche il favore del governo italiano, eccetera, lei non ci crede proprio, Ma guardi, io ho ricevuto una notizia che sarebbe molto interessante poter verificare, che uno dei massimi rappresentanti di questo governo ha residenza a Langley. Guardi che se questo è vero è molto carina come notizia, cioè, mi praticamente al TG3 qualche giorno fa, cioè uno di questi sarebbe al governo in mano agli americani, questo lei dice? Sarebbe curiosa, se è vera, l'ho sentita al TG3 qualche giorno fa, che uno dei massimi rappresentanti del governo ha la residenza a Langley. Complotto dell'America. Dunque, nuovo Afghanistan, nuovo Afghanistan che vuol dire? Cioè che ci saranno i fondamentalisti? Di fatto noi abbiamo consegnato il paese, non si sa a chi. Io notizie, questa le do una notizia precisa, mi pare di averla già rassegnata proprio alla vostra trasmissione. Sì. Io così ho un po' di contatti in Libia, di gente che sta giù, qualcuno che ha giù anche degli impianti. Sì. All'inizio della rivolta sono arrivati un paio di centinaia di esponenti libici che stavano in Afghanistan a combattere con l'Al-Qaeda. Sono tornati immediatamente in Libia a combattere con i ribelli. Ma poi adesso posso fare io una domanda? Ma c'è uno di voi due che crede alla favoletta di intervento per proteggere i civili? No, io no. E se era vero prima, è ancora vero adesso? Ieri il portavoce della NATO ha detto che bisogna continuare a bombardare per proteggere i civili. C'è qualcuno di voi due che ci crede? Scusi, però io non ho capito se comanda. No, ma io credo che quando cade un dittatore, un dittatore godo come un pazzo, io comunque. Allora, lei non è gode? Un intervento di natura neocolonialista. Abbiamo deciso di l'Europa, la Francia, non so chi ha deciso di annettersi la Libia e vedremo cosa succederà. Per cui non ho capito se è in mano agli americani oppure agli estremisti islamici, cioè in mano agli occidentali col pericolo di un estremismo islamico che questo è accaduto in molte parti del mondo dove si pensava che intervenissero gli americani, anzi gli americani sono intervenuti e poi è successo che hanno perso di vista la situazione. Ricordiamoci che Al-Qaeda e i talebani all'inizio sono nati finanziati dagli americani funzionanti sovietici. Allora, però passiamo alla manovra. Castelli, abbiamo pochi minuti. La questione le pensioni non si toccano per la Lega, mi sembra di capire, no? C'è il baluardo delle pensioni. Noi abbiamo fatto un ragionamento molto semplice che mi sembra anche abbastanza razionale. Però la dichiarazione, la possibilità della pubblicazione dei redditi da parte dei comuni una vergogna. Che Parenzo giudica una vergogna. Lei come la giudica questa possibilità? Ma è sempre avvenuto, voglio dire, io mi ricordo quando ero ragazzino, ogni anno i giornali locali pubblicavano la dichiarazione dei redditi dei cittadini irachesi o come in tutte le parti d'Italia. Poi a un certo momento in nome della privacy questo non è più stato fatto. Per quanto riguarda noi parlamentari, noi ci siamo abituati perché pensi che io dichiarare all'authority se compro delle azioni o meno, per cui certo. Figuri, lei ha un ruolo pubblico, mi pare il minimo. Voglio dire, una volta c'era questa abitudine di pubblicare i redditi. Bisognerebbe metterla così uno fa dell'azione più facilmente? Cioè c'è il caso di farla, cioè bisogna aiutare la delazione. No, allora qua dobbiamo essere conseguenziali, dobbiamo capire se vale di più l'interesse comune o la privacy, perché diciamo che siamo un paese di evasori, ciascuno di noi credo che nell'esperienza di ciascuno di noi c'è un vicino che magari dichiara poco e poi fa un tenore di vita che non è ben comprensibile. Lei lo farebbe, lei denuncerebbe qualcuno, cioè direbbe... Quello là mi sembra che farebbe dell'azione fiscale? Ma guardi, non c'è bisogno che lo faccia io, perché... No, ma lei lo farebbe o no? In qualsiasi comunità ci sono le forze dell'ordine, i carabinieri, enti pubblici che sanno perfettamente come vive ciascun cittadino, non c'è bisogno che debba farlo il singolo cittadino questa cosa qui, se si vuol fare chiunque la può fare. Senta, invece la supertassa per gli sportivi lei la metterebbe? Ma io avrei tenuto la supertassa per i ricchi. Ah. E lei dunque è d'accordo anche quella, il contributo di solidarietà l'avrebbe tenuto? Ma, perché sono ricchi sì, quelli là. Parlo contro il mio interesse perché avrebbe colpito anche me. Che io sono ricco, signor Castelli, l'avrebbe messa pure me. Se dobbiamo fare i sacrifici è giusto che i sacrifici li facciano prima quelli che stanno meglio e che quindi possono permettersi di fare un certo sacrificio. Devo dare la linea al giornale radio. Guadagna 1500 euro al mese. Giornale radio, se lei ha tempo 5 minuti, 19:15. A tra poco. Bene, bene o male, no, a secondo di bene. Come vi sentite, a secondo di come la prendete, la politica e barra o la vita. Sono molto filosofico questa sera, caro Parenzo, che è in collegamento da Roma. In collegamento da Roma, io voglio dalla subito, sette. È sempre con noi il senatore diciamo, Castelli. Diciamo, dalla 7, diciamo, sì, sette. Devi sempre fare pubblicità, sta alla 7, facciamo pubblicità alla 7, avanti in collegamento dalla 7. In collegamento dalla 7. Sì, vabbè, vogliamo elencare anche un po' di trasmissioni dove collabori, non lo so. No, io dico senatore Castelli, ma quando lei ha conosciuto Parenzo anni fa, era così Parenzo? Cioè, era così. No, è peggiorato dal crescere. era meno provocatorio, un po' più calmo, un po' più ragionato. Adesso si sta costruendo questo personaggio che comunque cioè che è un po' giamburrà, che cosa abbia successo, quindi l'importante che non esageri poi. Che è un personaggio quello là di quelli che vanno a fare le interviste tipo le Iene, questi qua che sono un po'. No, però direi che è su un altro livello, insomma, cioè lui si è già creato un suo brand, diciamo così. Quindi... Grazie Castelli. No, tu sai che quindi accettavi, voglio dire, si è creato questo personaggio di provocatore, lo fa in maniera intelligente, quindi. Posso svelare un'esclusiva assoluta? Esclusiva io adesso, quando ho dei momenti di depressione vado su YouTube, lo consiglio anche ai radioascoltatori, perché mi guardo uno scontro epocale a Ballarò tra l'ingegner Castelli e il direttore, il fondatore di Repubblica, il signor Scalfari. Perché è bellissimo. Non raccontano come me l'hai raccontato ieri. Perché ieri noi non parliamo in realtà di donne, di altre cose. Parliamo spesso di. Vabbè, raccontami di nuovo questo. Racconta questo. Se deve guardarsi queste cose, un casalico disperato. Sì, è disperato. No, ma come vedete di buon umore ascoltare d'aria, vada a guardarsi Castelli col verso Scalfari. Com'è la storia? Qualche problema. Com'è la storia, Parenzo? Raccontamela come l'hai raccontata a me. La storia divertentissima, c'era Borghese, c'era Castelli da Ballarò con Scalfari. Scalfari era un po' come al solito, cioè Scalfari è un padre nobile del giornalismo, quindi era un po' come dire altezzoso forse alle volte, no? Beh, forse, allora, forse togli il forse, insomma. No, non lo so, e a un certo punto l'ingegner Castelli ha detto: uè Scalfari, guarda che liceo classico ho fatto anch'io, è stato un momento meraviglioso. E lui? No, l'ho fatto io, che non credo che lui l'abbia fatto. E poi? Lei non cambia mai, Castelli, ha detto poi una cosa in latino, in modo sprezzante, senza neanche guardarlo, lei non cambia mai. Signor Castelli, ingegnere, sono ingegnere, ora che ho studiato anch'io, Scalfari, bellissimo. E lui? Bellissimo. Niente, non ti ricordi più. No, lui mi disse una cosa in latino dicendo non so se la capisce, e io gli dissi, guarda, siccome lei non ha fatto il classico, io la cosa lei mi ha detto in latino, gliela posso dire anche in greco, cosa che lei non è in grado di fare. Scalfari inorridito, era inorridito. Va bene, sentiamo i titoli del TG3 presentati dalla signorina Began qui alla Zanzara. Io voglio risentire però questo Azzolini lo voglio risentire, il signor Azzolini, che è il presidente, il relatore del PDL della manovra al Senato. Non conta nulla perché sono altri che presentano le cose. Però, interrogato sulle pensioni, così reagisce. Le pensioni? Mo sta stata a lavorare io. Guarda, io qui sto a lavorare. Se saltano detto le pensioni, come le compensano? Non lo so. Se salta, diciamo, è la stessa cosa che se adesso facesse il temporale per me. Stiamo a lavorare. E adesso i titoli del TG3 di Bianca Belinguer. Ancora modifiche alla manovra, salta la norma sulle pensioni, tensione tra PDL e Lega, Schifani al governo, subito gli emendamenti. L'opposizione attacca, governo e maggioranza sono nel caos e con una manovra senza copertura ora il paese rischia sul serio. Nella manovra un buco di oltre 5 miliardi, dopo lo stop alle pensioni il governo va a caccia di risorse, Bruxelles servono misure per la crescita. Non cala il numero dei senza lavoro, il tasso di disoccupazione è all'8%, corrono invece i prezzi al top dal 2008. In Libia si stringe la morsa su Gheddafi, se non si arrende la uccideremo, dicono i ribelli, domani a Parigi la conferenza internazionale. A Roma di nuovo in piazza, a Parma di nuovo in piazza i cittadini indignati chiedono le dimissioni del sindaco dopo lo scandalo delle mazzette che ha travolto la giunta. Chiuso il calciomercato, pochi soldi e tanti stranieri acquistati, Zarate all'Inter, l'ultimo colpo e domani il vertice per far partire la Serie A. Vieni con me, amore, sul grande raccordo anulare che circonda la capitale. Castelli, secondo me, Parenzo ha la soluzione per trovare un po' di soldi dalla finanziaria. L'ha scritto pure sul suo profilo Facebook o su internet, sul blog, non so dove. Beh, insomma, facciamo pagare, poi alla fine il riferimento è quello, non solo a quello, per carità. Facciamo pagare quelli che non pagano l'autostrada, quelli che non pagano i raccordi. È vero, Castelli? Quanti soldi si potrebbero tirare fuori? Ma già subito 300 milioni. Però io sto girando per Roma, c'è un manifesto del PD. Sì? Che condivido pienamente e dice facciamo pagare quelli che finora non hanno mai pagato, cioè i romani. Allora no, non solo i romani, ci sono, io ho fatto un calcolo approssimativo, sì, credo un 15 milioni di, sì, di cittadini italiani che non pagano le autostrade contro gli altri 45 che le pagano. E dal GRA quanto ci facendo? Sono degli evasori fiscali, ci sono gente che va in pensione senza aver pagato i contributi, quindi deve andare a pescare lì prima di tutto. Ma poi da grande raccordo i sacrifici ai più abbienti, questa credo che sia una manovra che possa essere definita equa. Senta, ma dal grande raccordo anulare quanto si potrebbe ricavare all'anno? Quanto potremmo prendere? Glielo dica dalla mano. Non lo so, la cifra globale è circa 300 milioni. Tra l'altro voglio ricordare che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha già mandato al Ministero dell'Economia e Finanze la bozza di DPCM, quindi adesso basta che il Ministro Tremonti e poi il Presidente Berlusconi lo firmano che diventa operativo la cosa. Senta, ma però Alemano continua a dire che porterà i disabili e i poveri sotto Palazzo Chigi per protestare. Ma Alemano ha appena preso 4 miliardi e mezzo. Sì. Per pagare i fornitori del Comune di Roma e sanare i buchi di Roma, cioè non è che noi possiamo sempre, anche lui si renda conto che non è che possiamo sempre dare sempre tutto a Roma. Lui l'altro giorno era a manifestare con i sindaci che non riescono a spendere, io parlavo con un sindaco che ha un milione in cassa e non può spendere per il patto di stabilità. Invece lui? Alemanno, che era vicino a lui a protestare, ha potuto prendere adesso 4 miliardi e mezzo e può spendere immediatamente per sanare il buco di bilancio che non lui ma la sinistra capitolina ha creato al Comune di Roma. Per cui che porta i disabili? A Roma, Padania, 2-0, per tutti quei sindaci di tutta Italia in questo caso che sono con l'acqua alla gola. Mentre qui c'è una situazione assolutamente privilegiata. Lui dice che vuole portare la capitale, però est modus in rebus. Quindi secondo lei i sindaci del nord, secondo lei Castelli dovrebbero marciare su Roma, marciare sul Campidoglio? Magari una marcetta forse simbolica, sì, come abbiamo fatto tanti anni fa su Roma, che fu una bellissima manifestazione. Credo che varrebbe la pena. Con qualche coro forse eccessivo, se non ricordo male, qualche coretto eccessivo. Però ma vede la differenza fra noi e gli altri manifestanti? Noi al massimo riusciamo a fare qualche coro eccessivo, gli altri spaccano le vetrine. Chi è che spacca le vetrine? Abbiamo visto nelle manifestazioni molto male, no? Sì, certo. Senta, noi al massimo facciamo qualche cosa. Però lei che è sempre molto sincero, a parte i cori, questa storia di Bossi che dice troppe parolacce, diciamo la verità, stronzo a Casini, il nano di a Brunetta, quel nano non ci lo. Ma guardi, posso dire una parolaccia anch'io? Sì. Sì. Io ho qua una pagina del Fatto Quotidiano. Sì. In cui io vengo definito figurina di merda. No, quelle sono la satira. No, è il misfatto. È il misfatto. Io vedo il Fatto Quotidiano / misfatto, quindi vede che non Nessuno può dare lezione. Beh, come quello è un giornale. Ma comunque il giornale Bossi, satirico, Bossi è il giornale satirico. Bossi è il ministro. A parte questo qui è il giornale che vorrebbe essere oggi una sorta di opinion leader della sinistra. Ma no, è l'inserto satirico, prendetelo, allora. No, ma è l'inserto satirico. Ma non lo sto difendendo, è l'inserto satirico, è diverso. Io lo difendo, è l'inserto satirico. Dare uno faccia di merda. No, ma quella è un'invenzione. Ma che è sono l'inserto satirico, è un'invenzione di disegni, è un inserto satirico. È un'interiezione in natura politica, diciamo, portata all'eccesso per definire un concetto pregnante in pochissima... con pochissime parole. No, mi scusi, però per mi dia la definizione allora, tu, qual è la definizione delle parole utilizzate da Bossi in alcuni casi, cioè stronzo a Casini, nano e non ci rompe coglione a Brunetta, cioè è un'estremizzazione concettuale di un ragionamento molto più complesso che però viene dato con una parola comprensibile a tutti e quindi è diciamo un sunto portato all'eccesso. Beh, diciamo che è una definizione direi definitiva, no caro Parenzo? Una definizione quasi potrebbe essere, non so, futurista, no? Una così degna di Marinetti, no? le parolacce tra virgolette, gestacci di Bossi sono un qualcosa di futurista. Beh, io questa qua non l'avevo sentita ancora ed è interessante. L'ho inventata lì per lì, no? Per no, sul serio, no? È evidente. Senta, Montezemolo in politica, però c'è un fondo di verità. No, se lei l'ha detto ci crederà, perché altrimenti non cioè uno condensa finché va all'estrema sintesi della questione e fa quella roba. Quindi un rutto bellissimo, un rutto effettivamente. Lei sa che nei paesi arabi dopo cena o dopo pranzo il rutto è sinonimo di aver apprezzato il cibo, lo sa, no? E dunque guarda, io ho frequentato quindi una sintesi parecchi consessi di paesi arabi, non ho mai sentito ruttare nessuno. Sì, appunto, Parenzo, che dici? Non dire stupidaggi. No, non conosce le usanze di altri paesi. Ma non conosci tu. Ma scusi, quando si dà Brunetta del nano veneziano non romperci i coglioni, ecco, che tipo di sintesi è questa qua? Di sintesi futurista? Vabbè che voi siete degli intelligenti provocatori. Beh, ma è così, questo ha detto, lei che l'ho detto io. Ho cercato di mettere in qualche modo, adesso basta. Dai. Brunetta, nano veneziano, non ci rompere i coglioni sulle menzioni, cioè voglio capire che tipo di riassunto, qual è il concetto che c'è dietro, che Brunetta è d'accordo con alzare l'età pensionabile, d'accordo, ma si potrebbe dire anche così, non siamo d'accordo con te senza bisogno di dire nano veneziano. Ma si sa che Bossi ama così un linguaggio colorito, infatti Brunetta non se l'è presa. Brunetta che non se la prende non l'ho ancora visto. È una persona intelligente. Senta, Montezemolo, diamo una bella definizione di Montezemolo, perché anche lì Calderoli si è esercitato, il signor Calderoli, ha detto una scoreggia dell'umanità che non ha mai lavorato in vita sua, anche questo devo dire è una sintesi abbastanza, come dire, futurista. Ma allora, secondo me la sostanza di Montezemolo è che dica che parla bene ma razzola male. Parla bene ma razzola male. Cioè, no? Quindi come potremmo condensarla in una frase volgare? Forse, non so, appunto, che non c'è una grande sostanza, quindi può essere definito come? Così, con qualcosa di aereo che manda i suoi messaggi. Ah, però, per questo lei dice, non so. Sì, lei dice la scoreggia di Calderoli aveva questo riferimento, lei dice, no? Cioè tutta aria e niente sostanza. Beh, può essere però, potrebbe essere una cosa così. Cioè, lei, molto fumo e poco arrosto. Ma lei come ce lo vede in politica? Montezemolo? Ma io vorrei che venisse. Sì? Perché vede, io vengo da Lecco, città del Manzoni, quindi città con, diciamo, afflati culturali molto elevati. Però c'è anche il dialetto che... spesso rende in maniera molto più sintetica, concisa, non c'è dubbio, prima, ma in questo caso non so cosa dire di diverso, pregnante un concetto. Sì. Qua, c'era un terzino dell'Eco tanti anni fa, quando io ero bambino, che spesso veniva beccato dal pubblico di casa, no? Quindi dal pubblico locale che beccava il terzino locale. Lui si fermava, smetteva di giocare, si rivolgeva al pubblico e diceva: "Vesciate!" Che significa vieni qua tu e vediamo cosa sei capace di fare. Che mi viene da ridere. Ecco, quindi io rivolgo lo stesso invito a Montezemolo: esci a te, così lo smetterai solo di criticare, ma vediamo cosa sei capace di fare. Scendi anche tu nell'agone, vedi quanti voti prendi e poi vedi cosa riesci a fare. c'è già stato in passato un'esperienza sì. della famiglia Agnelli che non mi sembra che abbia lasciato molte tracce. Lei dice... Quindi, però venga, ben venga, cioè... Comodo criticare. L'altro giorno ha detto Italia Futura che l'Italia per essere rilanciata bisogna diminuire le spese sì. e rilanciare lo sviluppo. Eh beh, questo... una genialata totale, avevamo proprio bisogno di questa illuminazione. Per cui banalità di Montezemolo per capire che quella è la via per uscire dalla crisi. Banalità assortite, dice lei. Cioè, proprio veramente una cosa da geni. Io mi sono sentito veramente emozionato quando ho letto quel concetto lì. Quindi Montezemolo è un genio, ho capito. Va bene, grazie, grazie. Grazie a voi. Grazie, a presto. Un abbraccio. Parenzo, faccia il giudizio, mi raccomando. Un abbraccio fortissimo. Borsa, borsa, borsa. Torna anche Zanzara Party, caro Parenzo, piano piano ci stiamo riabituando a questo ritmo. Iridillo. A questo ritmo che ci porterà da oggi quasi ininterrottamente, diciamo la verità, a meno che non ci facciano fuori, a meno che non succedano sparacelli, alla fine di luglio dell'anno prossimo. Io mi spavento se penso in onda fino alla fine di luglio del 2012. Beh, questo è buono, cioè, oggi è il 31 agosto, ti rendi conto? Con qualche ma c'è un'interruzione natalizia o no? Sì, sì, qualche giorno così, qualche giorno a Natale, qualche giorno a Natale, capito? Certo, certo. Una cosa continua fino al 30 luglio, un primo agosto, magari deciderò il 6 agosto, quest'anno vado in vacanza il 10 agosto del 2012 e ricomincio il 15 agosto, il 18 agosto del 2012. Ma sei appena tornato e già pensi al futuro. Ascoltatori, adesso come piovesse, dove andiamo? Gemma, la signora Gemma, iniziamo con una donna. La signora Gemma ci chiama da Verona. Da Verona, bella città, Verona. Sembra che la signora lei vuole mettere Mario Sechi, il nostro amico Mario Sechi, al direttore del TG2, come direttore del TG2. Beh, questo è ottimo, bravo Mario. Ricordati degli amici, Mario. No, ma perché sei devi sempre fare lisciare sempre pensi? Il pelo? E poi che ne sai, magari non ci vuole andare, per me sarebbe la morte civile per il signor Sechi. Andare a fare il direttore al TG2. Ma che va a fare al direttore del TG2 Mario Sechi? Mario Sechi al TG2, nuova campagna della Zanzara. Mario Sechi al TG2. Ma perché? È una nuova campagna. Ma che ne sai che lo vuole fare? Mario Sechi, è il tempo che Mario Sechi, visto che bello, è il tempo, è venuto il tempo che Mario Sechi vada al TG2. Ma tu sei pazzo. Vabbè, andiamo a Verona. La signora vice direttore sarebbe benissimo, Cruciani, vice direttore del TG2, bellissimo. Ma io non ci penso nemmeno, non te l'avete. Gemma da Verona. Cambi subito la musica del TG2, metti che quella noiosissima sigla che hanno. Gemma da Verona, buonasera. Sigla noiosissima quella. Va bene, dica. Buonasera, innanzitutto volevo fare i complimenti per la trasmissione. Va bene, grazie signora, a noi non ci piacciono i complimenti, però da lei li accettiamo, dica pure. Grazie, no, anche perché la seguo da poco, bene. Poi è pungente al punto giusto, infatti bene. Il nome Zanzara è proprio... Cos'è? Andiamo al sodo, che lei è andata già oltre. Niente, bene. Il sodo è questo, che io volevo fare un piccolo intervento, cioè così una riflessione, se possibile, su questa manovra, un tema tanto discusso in questo periodo. Sia no? Breve però, una discussione sulla manovra, allora, riflessione, già mi vengono i problemi. Sì, no, dopo aver sentito il ministro Castelli che mi ha confermato il negazionismo tipico del partito, tutto il rispetto da cui proviene, sempre va tutto bene, il grande concetto che hanno degli italiani, della loro intelligenza e la loro democrazia, ma non pluralismo. Signora, non ci ammazzi la trasmissione, vado al sodo, ci stiamo addormentando. Il sodo è questo, secondo me il problema non è tanto per me, il problema non è tanto la manovra, ma questa è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Io personalmente sono stata delusa da questo governo, mi aspettavo di più, aspettavo cose diverse. Sì. Intanto mi sembra ricalcare i governi precedenti, in quanto a tagli, tasse, con l'aggravante che di questo passo aumenterà sempre di più la forbice tra i ricchi e i poveri. Signora, cioè, ma chi l'ha mandato quel signor forbice? È stato lui a dirle di chiamare qui. Praticamente con manovre dirette colpiscono sempre di più, la classe media andrà spazzata via e due cose che volevo sottolineare. No, due cose no, signora, ne basta una. Allora, avevo promesso devolution, brave art, giustizialismo, brave art non l'ha promesso nessuno. Parlava di giustizialismo, ma come giustizialismo? Che vuol dire? Chiacchiere distintivo. Signora Gemma, la ringrazio molto perché qui arriviamo a... No, falla parlare ancora, dai. No, come sei pazzo? No, che entri nel merito. merito delle cose, non sono superficiali, quindi nel merito delle cose. Lanfranco da Vicenza, buonasera. Ci stava distruggendo tutto, si stava buttando giù. Abbia pazienza. Gianfranco, dica. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Niente, io avrei voluto veramente poter spendere due parole con Castelli, che sì, mi sarebbe veramente piaciuto dirgli due cose. Cosa voleva dire il signor Castelli? Cioè, vuole dire, per come hanno portato il paese, dovrebbe, non dovrebbe neanche andare più in giro a parlare uno come Castelli. Voglio dire, io l'ho votata la Lega Cruciani, perché non dovrebbe parlare? Mi spieghi perché? Perché porca paletta, sono 17 paletta, anni sempre paletta, che si è sposato col Nanetto, ne hanno combinato di tutti chi è i colori, Nanetto? Adesso vuole darmi lui la ricetta di come uscire da sta crisi. Chi è il Nanetto? Il Nanetto, vabbè, dai, il Nanetto di Arcore lo conosciamo tutti. Ah, con Nanetto di Arcore. Ah, sì. Cioè, Cruciani, lei è una persona obiettiva, io l'ascolto allora quasi ogni sera, e voglio dire, lei ha visto come sono andate le cose, cioè all'inizio ce l'hanno menata con la secessione, poi con la Padania, poi non se ne è più sentito parlare perché la gente stava calma e zitta, adesso che le cose si è scoperto che vanno veramente male, allora si torna a parlare di nuovo di secessione, ma voglio dire, ma la gente è veramente così rinco secondo lei, Cruciani? E che ne so io, Lanfranco... Me lo chiedo, mi chiedo come lei diverse cose, mi faccio delle domande come lei. Certo, la Lega ha avuto un'evoluzione, non c'è dubbio. Oggi leggevo una cosa interessante, da partito rivoluzionario, da partito che voleva cambiare questo paese e difendere le pensioni come la CGIL, una versione diciamo un po' carnevalesca e più esotica della CGIL, ma insomma difendere le pensioni come la CGIL, diciamo la verità, difendere le pensioni, però non è che difende le pensioni, difende l'età pensionabile, e se è molto diversa la cosa. Franco dalla provincia di Massa, buonasera signor Franco. Buonasera. Prego. A me la cosa che mi preoccupa di più, a parte me la potete confermare quel discorso che Renzo Bossi ha partecipato all'ultimo summit? Sì. Ma non è un mistero, cioè non è che lo nascondono, non è che lo portano dentro, sai come si fa con i... Non è che lo mettono dentro un sacco nero e lo trascinano, no? Perché a me mi è venuta l'urticaria a sentire una notizia del genere, non la sapevo, quindi sono qui che mi sto, perché... Cioè, io quello che non riesco a capire, no, in Italia, stiamo parlando di una persona che, a quanto mi risulta, è stato bocciato per 3 anni di seguito all'esame di maturità, giusto? Quindi, non è che sia un genio, se vogliamo metterla così, no? Genio, ecco, non sembra, però, poi là, il giudizio... un genio no, perché uno la cui massima aspirazione è quella di vedere giocare lo stadio di San Siro una partita di calcio fra Italia e Padania, ditemi voi, è un genio. Non è che la sua massima aspirazione è dal punto di vista sportivo, abbia pazienza, non è che la sua massima aspirazione nella vita, spero che siano altre, le belle macchine, le belle donne. Non sappiamo quale sia, però cioè, io quello che mi voglio capire, poi diciamo che questo paese sta andando a rotoli, beh certo, perché se il futuro dell'Italia... e lo mettiamo in mano a certe persone, io voglio sapere dove possiamo andare, cioè noi abbiamo il problema della fuga dei cervelli, i cervelli fuggono dall'Italia perché non riescono, no, perché non c'è meritocrazia, no, non c'è nulla di tutto questo, i cervelli fuggono via dall'Italia, il problema è che noi deficienti li eleggiamo e li mandiamo a farci governare, quindi siamo dei cretini noi che mandiamo queste persone a farci governare. Il fatto che sia stato eletto attraverso dei voti, quello non c'entra nulla, ma quello non c'entra nulla, perché c'è una cosa molto semplice, non è vero come mi ha scritto un ascoltatore che è stato eletto con il listino bloccato, è stato eletto con i voti, certo, si chiama Bossi, e poi comunque non è che se uno è stato eletto consigliere regionale può partecipare ai vertici di governo, evidentemente il ruolo, come ha detto Castelli, è quello di far parte dello staff, il padre se lo porta dietro perché io francamente non è che mi alzo la mattina e sono preoccupato per il fatto che Renzo Bossi partecipa ai vertici di governo. Abbia pazienza, signor Franco. Sì, però... lei è preoccupato, Però dopo che ho sentito la notizia, un po' di orticaria mi è venuta. L'orticaria, a me non mi viene nemmeno l'orticaria. Fa discutere, fa sorridere. Ma sì, fa sorridere, però insomma, non è che decide. E anche dentro la Lega, io lo so, te lo dico, te lo anticipo per certo, ci sono molti mal di pancia su tutta questa vicenda di Renzo Bossi. Perché la Lega nel 92-93 accusava i socialisti e Bettino Craxi di familismo. Il signor Bobo era segretario dei giovani socialisti, non aveva cariche pubbliche, cioè non era stato eletto in consiglio comunale, era segretario dei giovani socialisti, accusavano di familismo il povero Bettino Craxi, cioè, di che parli? E la Lega ha avuto una trasformazione antropologica, diciamolo. Francesco da Siena, no, non c'è il traffico. Francesco da Siena, buonasera. Bella Cruciani, siamo arrivati al grottesco. Che grottesco, allora, cos'è? Si toccano le pensioni, ok, no, per carità, anzi sì, vai, messa a manovra, l'IVA si alza di un punto, ok, fatto, anzi no, togliamola, riscatto anni, mettiamo, no, allora bisognerebbe dire anche all'onorevole Castelli, che dà la colpa ai giornali, qual è l'impressione che esce al pubblico, al cittadino, secondo lui sono tutte invenzioni dei giornalisti, ha sentito prima, appunto, l'ha detto. Ma quali invenzioni dei giornalisti, di che stiamo parlando? Sono assurdità, confusioni, dilettantismi, esatto. A questo stiamo assistendo, l'impressione di essere inaffidabili, incoerenti, approssimativi, cioè noi si pensa che stiano lì a gestire le complicate leve del mixer finanziario, secondo me la manovra si basa esclusivamente sul bacino elettorale da intaccare, è l'impressione che si ha quando il medico chirurgo deve operare e gli trema la mano e tiene il bisturi, ecco, io ho questa impressione qua. Sì, Francesco, che uno guardi al proprio bacino elettorale, quello succede sempre, cioè, non illudiamoci che ci siano, come dire, obiettivi di lungo periodo o che non si pensi ai propri elettori e si facciano dei ragionamenti sulla base di dati che riguardano l'intero paese. C'è sempre un occhio di riguardo nei confronti di un certo elettorato, del proprio elettorato, quello lo fanno i governi di centrodestra, lo fanno i governi di centrosinistra. Certo che in questo caso non si capisce, perché ripeto, secondo me la manovra cambia più velocemente di una sveltina. Che succede, Parenzo, che stai facendo? No, è un attimo in una riunione della SET, stiamo aspettando l'arrivo di Veltroni, gli do questa notizia in esclusiva. Per fare cosa? Veltroni è ospite di una trasmissione che si chiama In Onda, che va dalle 20.30 alle 21.10 sulla 7. Vabbè, se passa da lì naturalmente me lo intercetti, signor Veltroni, Beh, adesso infatti mi sono posizionato qui davanti, uscita, vediamo se riesce, però potrebbe essere, non voglio dire di più, non voglio dirti di più, potrebbe essere, bene. Clamoroso, tra poco Veltroni alla 7. Antonio da Vicenza, non è clamoroso, è un personaggio politico che abbiamo intervistato. L'hai mai visto in televisione ultimamente? Ma no, sì, ogni tanto va. Antonio da Vicenza, comunque. Antonio da Vicenza. Beh, se uno vuole fare politica un po' si deve far vedere o no. Cioè, non è clamoroso. C'è, cioè, Antonio da Vicenza. Di oggi non è Marchionne in Onda, è Veltroni. No. Veltroni, clamoroso? Esponente un po', come dire, in questo momento un po' in. Noi in disarmo, no, ma insomma, certamente non è che sia in una situazione nel Partito Democratico di grande però viene potere. Viene a parlare non di, cioè, anche un po' di attualità, però dei Kennedy. Vabbè, è una cosa vergognosa. No, davvero, Antonio da Vicenza. C'è un nuovo telefilm meraviglioso che parte sulla. Antonio da Vicenza. Pronto? Roba da matti. No, Antonio da Vicenza, buonasera. Pronto? Antonio, prego, dica. Sì. Ecco, niente, è la prima volta che intervengo ad una trasmissione, ma non ho riuscito ascoltando. Sì. Signor Castelli, sì. Sì, che ha rinunciato alle ferie per salvare il paese. Sì. Ecco, no, sono rimasto di fronte a cose di questo genere, veramente è da essere molto pessimisti sul futuro del paese. Se questa è la nostra classe dirigente, veramente c'è poco da sperare. Cosa vuole che le dica? Ho mai sentito tanta prosopopea e tanta ignoranza nello stesso tempo. Ma ignoranza adesso, cioè, perché dire così? Ha detto che ha rinunciato alle vacanze in Indonesia per occuparsi. Poi certo, secondo me ha dato eccessiva importanza a questa rinuncia alle vacanze. Cerco di spiegarmi. Ignoranza, cioè, penso che l'economia sia veramente ignorante. Forse saprà. Credo che fosse un tecnico audiometrico, cose di questo tipo qua, ma penso che di economia ne capisca ben poco, forse ha difficoltà a confondere il P col PILU. Col PILU. Ma perché? Cos'è questa roba? No, vabbè, comunque. Ma no, vabbè, ma cos'è il PILU? Ah, il PILU, quello del PILU per tutti. Sì, PILU per tutti. Ma non mi sembra, non mi sembra. No, vabbè, comunque, se devo guardare alla Prima Repubblica e penso che so, per esempio, un Andreatta o anche un Formica, veramente siamo Vabbè, però non ci dica la solita solfa, stiamo meglio quando stiamo peggio, cioè non ne posso più di questa storia. È sempre la stessa cosa. Quelli erano meglio di questi. È una cosa di una banalità pazzesca. Cioè. Ma non ho nessuna nostalgia. Non ha nessuna nostalgia. Ma a un certo punto. Beh, un po' sì, paese, si ha detto, se paragono questi di adesso a quelli a Formica, eccetera, che facevano un debito pubblico grosso come una casa. Da un punto di vista di conoscenza economica. No, quello può darsi, dal punto di vista. Siamo completamente su altri livelli. Comunque, se il paese in mano a uno. Il cui unico organo che funziona è il dito medio, al trota, che come competenze veramente ho qualche dubbio, sì. E un Castelli che sarà anche ingegnere ma che di economia non capisce una beata fava. Tanto per essere in tema, insomma, tanto anche per lei. Essere anche lei. Bene, grazie signor di nuovo, Antonio da Vicenza. Arrivederci. Parenzo, che succede? C'è Veltroni? C'è Veltroni da quelle parti? Ah, no, sono le 8 meno un quarto, arriverà alle 8:10, 8:15. 8:10, 8:15. So. Una battutina così, una cosa sul caso Penati, così magari. Se la faccio. Una cosina sulla vicenda. Se il segretario del Partito Democratico è un po' azzoppato oppure no? Vuoi fare tutte queste domande? Giustamente, sì, magari lo tratteniamo fuori e chiediamo al palinsesto di iniziare più tardi. Può essere un'idea, sì. Sì, può essere un'idea. Intanto ti presento un sottosegretario che è stato più volte ospite alla Zanzara e torna. Ottimo. Torna qui da noi, l'onorevole Santanchè. Buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Come sta? Sta l'abbiamo vista palleggiare con i racchettoni, grandi foto, in spiaggia. Delle foto pazzesche. Delle foto pazzesche. Lo conosce, signor Sallusti? Ancora con questo signor Sallusti. No, ma perché Parenzo domanda sempre la stessa cosa? È fissato, ma com'è che è fissato con la storia tra lei e il signor Sallusti? Secondo lei, secondo me è un po' di andropausa. Ma non sarà anche un po' geloso, secondo lei? Un po' geloso, beh, nel senso. Un po' geloso, nel senso. Quando non si arriva all'uva è sempre acerba. Un vecchio detto, quindi potrebbe anche essere. Cioè, nel senso che ogni volta che vede qualche foto mi chiama subito: ma hai visto quelle cose lì? Hai visto? Ma a pallettoni, però, giocavo con mio figlio, con mio nipote. Sì, no? Quella era una vecchia. Si era scenerata. No, ha visto delle foto, ma mi ha chiamato. No, no. L'altro no, giorno non c'era. È andata così. Io ho visto un titolo meraviglioso del Fatto Quotidiano che dice: fare il bagno con Sallusti costa 10.000 euro. Ma è una cosa ridicola quella come là. Mai? No, perché hanno fatto, trovato, cioè non hanno trovato nulla. In realtà hanno chiesto quanto costa fare una stagione al Twiga. E costa forse facendo, non so, comprando tutto, affittando anche 10.000 euro può costare. E allora, siccome ogni tanto credo che il signor Sallusti va al Twiga, forse con lei, forse no, non lo so, non mi interessa. E hanno fatto un titolo: fare il bagno. Bellissimo. Com'era il titolo, Parenzo? Scusa. Fare il bagno con Sallusti costa 10.000 euro. Bellissimo. Ma non c'entra nulla, c'entra però. Nulla. Bisognerebbe scrivere invece: fare impresa quanto costa, visto che il Twiga dà da lavoro a 100 e più persone. Adesso non la prenda lavorano, seriamente. Non la prenda seriamente. Sarebbe interessante fare un bel titolo: cosa costa fare impresa oggi? Ma poi, se uno quali vuole pagare. Perché voi conoscete molti prenditori alla De Benedetti, che è il prenditore. Ma noi non conosciamo. No, non come prenditore? Prenditore che sia. I prenditori ne conoscete poco. I prenditori sono quelli che prendono. Chi sono? Faccio una lista. Ma perché De Benedetti è un prenditore? Scusi, perché De Benedetti è un prenditore? Un prenditore? Beh, insomma, mi sembra che l'ultima cosa, i soldi che ho avuto ultimamente siano proprio stati da prenditore. E che soldi non ha avuto? Da imprenditore. E che soldi ha avuto ultimamente? Se ne già ricordati, se ne già dimenticati della sentenza. Ah, quelli là, vabbè, quelli però è una sentenza che gli ha dati, non è che se ne è presi, non è che ha fatto il furto, sì, scusi. Ma volevo dire che Benedetti rimane un prenditore. Io differenzo tra gli imprenditori e i prenditori. Vabbè, però non è così per io mi sento una che ha fatto impresa. Meglio di De Benedetti, diciamo. No, meglio di De Benedetti no, perché non sono così capace a costruire queste scatole cinesi, a fare questa finanza. No, non dica scatole cinesi, a fare che dice, tutte queste cose qua. Sono ci denunciano capace, tutti sono qui. No, perché le scatole di cinesi da denuncia. E beh, poi Parenza, voglio dire. Lei è così vicino a chi in questi giorni riceve denunce, una sì, una anche, tutti i suoi amici della sinistra. Ma quali per cui non si formalizzerà mica, no? No, ma che quali però, amici scusi, della cioè lei dice, io come imprenditrice sono quindi trasparente e De Benedetti no. Questa è la realtà. Questo lei dice. Su questo non c'è ombra di dubbio. Cioè, intanto il signor Penati ha rinunciato all'ex Cirielli. Il signor Penati ha rinunciato tutto da vedere, ha detto alla prescrizione. Come va il processo? Questo ce l'ha giornata la signora Santanchè su questo. Per ora è solo un annuncio. È vero, per ora è solo un annuncio. Che così acuto la lettera che ha scritto a Penati, a me sembra un po' degli avvertimenti che mi fanno un po' venire la pelle d'oca. Per fortuna che non sono del PD. Beh, anche voi avete i vostri guai, eh? Non è che avete adesso, voglio dire, guarda, io sono una garantista, per cui lo sono per penati, ecco, e per chi non è penati, assolutamente, però trovo che certo, però si scrive bene, razzolare male è una cosa che è sempre molto attuale, per, anche lei della viva la bocca, poi sa, non è che è proprio un'influente per noi del Cendino, influente per noi del centrodestra. Io non lo so se questo scandalo che è scoppiato, orologeria direi tardiva. Quale? Perché quello di Penati, perché va indietro, no, ai primi anni 2000, anzi alla fine degli anni 90, l'hanno tenuto bello al calduccio nel cassetto, perché non so se le elezioni di Milano sarebbero andate nella stessa maniera. Ah, lei dice che la magistratura ha tenuto un po' queste cose qui un po' in... nel congelatore. Siamo abituati che la magistratura ha un orologio che è sempre sintonizzato con le elezioni, una parte della magistratura, un totale rispetto per molti, per la maggioranza dei magistrati, però è tornata combattiva, che una mela marcia ne fa marcire tante. Senta, ma lei della corrente si scrive Penati e si legge B Bersani, di quella corrente lì? Io guardi, dico che chi si è riempito la bocca, chi ha sempre fatto queste prediche, l'etica, la questione etica, la questione morale, gridando lo scandalo, dicendone di tutti i colori, oggi lo sguardo lo deve un po' abbassare e si deve anche fare un bel esame di coscienza. Come lotta, è tornata, tornata di grande lotta, la signora. Sì, però intanto mi sa prendere altro, signor Penati ha detto che rinuncerà ancora, ma non è così, ha annunciato, lo massacreremo. Farle capire a Parenzo come sta la questione, vuole che venga lì e ne faccia un disegno, così riesce a capirlo meglio. Un bel disegno. Ha rinunciato a un tubo, ha rinunciato a un fico secco. Si lega bene la lettera che ha mandato, si lega bene che messaggi ha voluto mandare trasversali, quasi in codice. E lega che il messaggio nella lettera così bella chiara, no? Nel senso che, insomma, non era il messaggio che diceva sono solo io, mi sembra di capire. Perché poi sa, nella vita da soli si fa ben poco. C'è una specie di Greganti, lei dice, come fu il signor Greganti. No, dico sempre che è una questione di network. Sai cosa farei io? Una bella proposta, non so se la Santa che la appoggia. Qual è la proposta? Di mandare la Guardia di Finanza, anziché fare questa buffonata di pubblicare i redditi di tutti in modo da stato guardone di cittadini normali, io inviterei la Guardia di Finanza ad andare a, non so, fuori dai grandi locali, la Costa Smeralda, fuori dai locali di Briatore, prendersi i numeri di targa delle macchinone che ci sono e fare dei bei controlli fiscali in tutte le zone dove ci sono i ricchi. Questa è una proposta che lei si sente di appoggiare o no? Anziché fare questa roba di pubblicare. Guardi, io ritengo un punto d'orgoglio pagare le tasse. Basta vedere la mia dichiarazione dei redditi, questo che non ci mancherebbe altro. Allora? Perché io sono orgogliosa di pagare le tasse. In Costa Smeralda. Purtroppo c'è un problema di education nel nostro paese, che non è come negli Stati Uniti d'America, che la prima domanda ti chiedono come ti chiami e la seconda quanto dichiari, perché è uno status il pagare le tasse negli Stati Uniti d'America. Da noi invece, siccome siamo il paese dei furbi, siamo cretini quelli che non le pagano. Quindi dobbiamo invece proprio imparare, perché vanno bene le leggi. Ecco, perché appunto non invito ogni giorno, come dice Parenzo. Appello alla Guardia di Finanza, venite in Costa Smeralda, venite fuori dal Twiga. Ma guardi, basta che esco, vengono anche sotto il portone vostro, non devi andare in Costa come portone Smeralda. Nostro? Non trova niente. Ma non trovano niente. I evasori sono in tutta Italia. No, vabbè, non c'è da andare in una zona, in un territorio particolare. È vergognoso evadere le tasse, perché quello che non si capisce è che se tutti pagassimo le tasse, ne pagheremmo tutte molto meno. Ma siccome non si capisce, questo è il paese del furbi e il paese dei furbi. Purtroppo. Senta, però, perché lei dice, mi è rimasta impressa qua in testa questa cosa di De Benedetti. Che lei dice prenditore, lì però c'è una sentenza, 560 milioni. Ma non mi riferivo alla sentenza. L'altro giorno il signor scandalosa. Ecco, il signor come si chiama? Confalonieri, l'altro giorno qui alla Zanzara. Come si chiama? No, perché non mi ricordavo, non volevo, no, figuriamoci. Certo. Ha detto, non me lo chiedete questa cosa qua, non voglio che me lo chiedete, perché è una cosa, questa sentenza mi fa venire dei conati di e non mi viene nemmeno dei conati. Anche allora lei riascoltare, che è bellissimo come l'ha detto. Vabbè, adesso lo faccio riascoltare dopo la pubblicità. Sì. Dunque lei considera De Benedetti un prenditore per quella sentenza lì? No, non per quella sentenza lì, più in generale. Più in generale. Nella vita, siamo partiti da un discorso diverso, trovo che ci si divide in imprenditori e prenditori. De Benedetti appartiene alla seconda categoria. Beh, qualcosa di giusto come imprenditore l'avrà fatta nella vita, una. Qualche Banco Ambrosiano, no, non lo so che cosa. Una cosa giusta, come imprenditore, adesso magari avrà commesso degli errori, non lo so, cioè, ma una cosa giusta, un'impresa che va bene, l'avrà fatto, no, ce n'ha tante. La Repubblica. Anche quello, o no? O no? La Repubblica, nasce sempre da quel ceppo là, Quale ceppo? Perché Repubblica sarebbe stata anche di Berlusconi, anche nel Comune sarebbe stato di Berlusconi. Tu? Repubblica di Berlusconi. Ma non vi ricordate? Ho capito. Non è che sto dicendo delle cose fuori dal mondo. Pubblicità, torniamo subito. Pubblicità, lei insomma capisce pubblicità. Siamo qui alle 20, caro Parenzo, 800 24 00 24, con Daniela Santanchè, che è tornata qui alla Zanzara. Che è questo rumore? È la pernacchia di Bossi? Cos'è? È una pernacchia ministeriale. Ma non so se sia la pernacchia. Non l'ho sentita, cos'era? No, la pernacchia di Bossi. C'è Santanchè, medio, lo stronzo a Casini, nano a Brunetta, pernacchie, gesti dell'ombrello, i giornalisti da bastonare e quell'altro una scoreggia dell'umanità. Ne posso dire bisogna tantissimo. Bisogna chiedere ai diretti interessati. No, ma l'ho chiesto, lo chiediamo continuamente. Ma imitate Bossi. È alleato con voi, anche voi non siete un po' in imbarazzo? Lei non può in imbarazzo, lei forse no, perché... Ma io guardi, non amo parlare di chi non c'è, amo parlare di chi c'è. Di lei, di Parenzo, di quelli che siamo presenti, che ci possiamo difendere, che possiamo... Vabbè, ho capito, ma non è mica... Parlare d'altro non è una cosa che mi appassiona particolarmente. Parliamo di un ministro, non è che il ministro deve essere sempre presente. Il ministro di Parenzo e Cruciani, francamente, però dopo perché... ho capito, un vostro alleato che insomma ha delle uscite anche su ministri, colleghi di partito, ma di coalizione, mi sembra piuttosto sgradevole. Lei non è un po' in imbarazzo a sentire... Insomma, Brunetta, signor Brunetta, federalismo e panaria, abbiamo fatto la panaria, il federalismo fa panaria, Santanchè e panaria. Chi lo sta imitando? Lo fa bene però. Ma scusi, signor Bossi, la Lega, ce la duro, Santanchè e panaria, Bianca e Cristiano, vai Usulvara, federalismo e tasse. Ma chi è che lo sta facendo? Scusi, signor Bossi, ma la signora Santanchè, volevo chiedere una cosa. La signora Santanchè una volta fece anche lei il dito medio, non è che lei ha fatto scuola, cioè, è ancora in collegamento? Che dice? Bossi? Guarda, Santanchè ha fatto il dito medio, voleva dire una padaria indipendente, voleva dire quello. Era il numero uno. Ho capito. Bene, grazie per questa spiegazione. Allora abbiamo capito tutto. Cruciani, scusi, perché non ho capito perché vaffanculo Cruciani, rotti i coglioni, ho capito, sai che era tanto che sognavo di dirtelo così con la voce in dosso, è più bello. Ma sai che secondo me avrebbe un futuro come imitatore? No, ma lei non ha idea, perché non lo frequenta. Ha sbagliato tutto Parenzo, ma cambia mestiere. No, ma fa delle cose eccezionali adesso, perché ieri sera eravamo ospiti della sinistra, signora Santanchè. No, della sinistra. Non è vero, della Think Net di Enrico Letta. Siamo stati ospiti per due anche giorni. Alfano qualche anno fa, perché l'hanno fondato insieme, vedrò. Sì, è vero, è una cosa un po' trasversale. C'è anche con Falonieri, è venuto ospite, eccetera. La signora sinistra di Girolamo, c'era la signora Ravetto. Ma la signora di Girolamo c'era perché c'è il fidanzato. Insomma. No, perché anche lei è di Vedrò. Sì, sarà di vetro per è acquisita, diciamo, a vetro. Comunque sì, è di vetro, è vero, è una cosa. La signora Ravetto, anche trasversale, cioè, la signora Ravetto la conosce lei, no, signora Santa Chiara? Sì, benissimo, sì. Molto brava. Molto brava, eh. Ma fa culo Cruciani. Ma fa culo. Ma per come fa culo Cruciani, scusa. Come fa culo Cruciani? Che? A trasmissione di merda, già fa schifo. È sempre boss. Già solo il padano abbiamo. È sempre boss, sì, vabbè, ho capito. Vabbè. Ogni tanto si inserisce. Senti, signora Santa Chiara, ma il fatto che Bossi porta, lo so che non c'è, però almeno su questo si può rispondere, che porta sì. I vertici sulla manovra il figlio Renzo, ecco, io voglio dire, ma dai, su, ma cosa c'è, diciamo una cosa su questo, però almeno sarebbe un po' come portarsi in un vertice di governo se allussi a Berlusconi, cioè, voglio dire, no? Ma quello può essere successo anche, no non è vero. Io poi sono molto amico, è come se lei lei portasse a un certo punto, ma certo che l'invidia è un sentimento tremendo, è invidiosissimo. Ma l'invidia è un sentimento, cioè Parenzo è invidiosissimo, terribile, del fatto che lei a un certo punto si è messa a frequentare il signor Sallusti. È veramente una roba tremenda, ma vabbè, comunque capisco, l'invidia è un sentimento che invade moltissimi animi, quindi capisco che Parenzo... ma infatti va bene così, va bene, insomma, non c'è, stava dicendo? No, stavo dicendo, è come se lei portasse vertice con Berlusconi, qual è la, lei non ha una nipote che si chiama Carnero, suo figlio, no? Sì, anche un figlio, potrei portare mio figlio Lorenzo, o suo figlio che verrebbe, suo figlio ha la stessa età più o meno del signor Renzo, no, Bossi. No, 15 anni, 6 anni di meno, vabbè, non c'è mai, non c'è limite, non c'è limite alla provvidenza, non c'è limite alla provvidenza, sa, ci possiamo aspettare di tutto, ma come scusi dire. Ma che male c'è se un figlio vuole seguire le orme del padre? No, ma quello non c'è, ma quanti notai che i figli fanno i notai, quanti medici, perché è così brutto? Io sono abbastanza per un sano nepotismo. Lei è per lo un sano nepotismo? Assolutamente, ma perché? Io, guardi, l'unica discussione nella mia famiglia è che ho due fratelli, noi siamo tre fratelli, sì. I miei fratelli hanno seguito le orme di mio padre è molto più felice che i miei fratelli lavorano nelle aziende a con lui rispetto. Quello è diverso, ma anche in politica lei è a favore di un sano nepotismo? Ma io, guardi, non ci trovo nulla di male. Perché se uno è portato a passione, a credo, non bisogna vedere se è portato, perché uno deve farlo? Perché, non so, è peccato? Beh, sa, perché la politica è fatta di... Ma se uno viene votato, sai cos'ha a differenza di tutti gli altri, di tutte le altre cose? Che la politica si viene votati, si è legittimati, sì, dal popolo, è vero che si chiama soprattutto, scusi, sì, nelle elezioni dove ci sono le preferenze. Sì, è vero. Per cui io trovo che veramente non era di un listino, di una cosa. Figlio di Bossi si è presentato, sì, ha preso i voti, ma perché dovete rompergli le palle? Ma chi gli rompe le palle? No, nessuno, gli rompe... No. No, nessuno gli rompe le palle, però non è che... C'è la democrazia, no, ma certo, ognuno volete altro? No, ma ognuno porta chi vuole... Però ci avete fatto una testa così nel 92 sulla vicenda Craxi, perché avete detto di tutto. Chi ha detto? La signora Santa Chiara, che c'è? Io, ma non lo so, avete candidato il figlio. In ogni verità, tanto parlate anche di nepotismo, l'università basta, con questa società bloccata dalle famiglie che no, diciamo basta, i posti a vita con questi baroni, va che bene, d'accordo, però insomma vita, voglio dire il punto, cioè, uno viene eletto anche perché si chiama Bossi e poi non è che uno va ai vertici di governo a 21 anni, è un po', voglio dire, non è che abbia questa, allora, vogliamo si chiamasse... i giovani o no? Perché qua si vogliono i giovani, poi i giovani devono stare a casa, i giovani non sono capaci, ma dipende come li scegli, è evidente che i giovani sono gli esperti, se no non sarebbero giovani. Ma Serenzo, quindi vuol dire proprio voi fare queste battaglie di retroguardia. Anche la signora, anche lei ha più o meno tra virgolette piazzato una nipote, come si chiama, la signora Carnero, la signorina Carnero. La piazzista non la faccio. Ah no, piazzata tra virgolette così, per modo di dire, su, nel senso, allora, ha consigliato. E qual è il scusi, il problema? Beh, insomma, qual è il problema? Che l'assessore più giovane d'Italia ha creduto nei giovani, il presidente della provincia di Milano ha creduto nei giovani, ma qual è questo problema? Ma no, cioè, ho capito, ma lei non aiuterebbe un giovane a fare il suo mestiere, giornalista? Ma no, sì, se è mio parente, se mio... Ma a parte che non è il pubblico è una cosa, il privato è un altro, sono cose molto diverse. Io sono refrattario a queste cose, sono molto diverse, ma questo è un mio carattere personale, cioè non c'entra assolutamente nulla. Sto dicendo che per dare le pari opportunità dare la possibilità anche chi ha lo stesso cognome, viene dalla stessa famiglia, secondo lei è una cosa pazzesca? Ma nel pubblico sì, no, per fare l'assessore abbastanza, senza alcuna competenza, l'assessore di una provincia importante come Milano, ma così giovane. Ma perché? Chi ma sì, ma diciamo, ma per fare l'assessore ci vogliono altre competenze. No, senza nessuna competenza, non lei, lei sarà preparata, ma cioè starà studiando, adesso non mi ricordo cosa fa esattamente sua nipote. È laureata al Politecnico. Sì, ma insomma, non c'è fare l'assessore. In generale, no? Perché voglio dire, ma io non riesco a capire, proprio voi, ma io capisco che poi vi si annebbia la vista quando si parla del centrodestra. No, a me, si figuri, a me. Però lo trovo veramente strano, perché vabbè, Parenzo, capito, adesso sta in piste nel pallone con la questione di Pennatti, tra un po' c'è Veltroni. Parenzo nel pallone. Ma nel pallone che sono di una serenità, che non me ne frega nulla, posso dire, non me ne frega niente proprio. E quindi in questo periodo capisco che Parenzo ha la nuvoletta e quindi... E nel pallone. Ho il distacco del cronista su questa vicenda. Il distacco del cronista è mia nonna, perché non è mica che adesso lei mi vuole fare credere che non è di parte. Perché, ma di parte dire, che? Di quale parte? Ma di qua, certamente non della mia. Non c'è ombra di dubbio. Comunque però io capisco che è un po' annebbiato, perché comunque, ma non sono annebbiato per nulla. Deve affrontare, poi insomma scrivere delicato, Bersani, Penati, ma è delicato cosa? Penati si faccia processare, male. Fine. Ma di chi stiamo parlando? Poi Penati che si fa processare, lo vedremo, no? Cioè, Penati come Verdini si faccia processare. Le piace? Reciti con me, lo dica con me. Santa che è molto liberatorio, lo dica con me. No, guardi, tanto lei non Penati come Verdini si faccia processare. Liberatorio, si sente meglio quel paese, perché guardi, ordini da lei credo di no, ma si fidi, si sente meglio, mi sento meglio, voglio urlarlo. Penati come Verdini, ordini da lei non li prendo, prima cosa. Io mi sento bene, mi sento meglio. Penati come milanese, che lei vuole sempre fare il paragone perché sta lì che c'ha solo stomaco, che hanno preso lì i suoi amici con la mano nella marmellata. Non sono miei amici, i suoi amici che predicano sempre che siamo non noi sono altri, amici, siamo noi disonesti. No, ma si fidi, se supera lo scoglio iniziale poi sta meglio, lo urli. Forse. Lo urli con me, Penati come Verdini, si faccia processare. Capisco che forse frequenterà donne che, per non so, per il suo fascino, il suo denaro, il suo potere, diranno di sì ai suoi ordini. Invece la mando proprio a stendere, perché lei prima che dica una cosa a me, che io la faccio, fa tempo a morire. Te lo dico proprio bello chiaro. Senta, però fa tempo a morire. Scusi, però dica a sua nipote di essere un po' più presente, perché mi ricordo tutto il tempo. Sentite il grado di preparazione, perché non è invitato assessore all'Expo, così, assessore all'Expo dell'84 assessore all'Expo del 2015. Sì, ma no, sai che ci sono ormai CFO, persone che hanno grandi porzi di responsabilità nelle aziende che hanno meno di 30 anni. Ma è stata lei a raccomandarla presso il signor Podestà? È una rosa di nomi, perché poi dopo lo sceglie il presidente della provincia, perché la squadra fa il presidente della provincia in quella rosa di nomi che facevano capo la famosa al mio rosa movimento, di... sì. Certo, il presidente Podestà, dopo aver incontrato, ha deciso che era mai? Assolutamente poteva essere all'altezza del ruolo e della situazione. E devo dire, peraltro, credo che stia facendo bene. Pare sia poco presente in la consiglio. No, questo non mi risulta. Se lei ha consigliati, però dico, invitatela. Così sì, vediamo subito, magari. Magari venisse. Magari venisse. Comunque, lei non ha dato nessun suggerimento al signor Podestà, no? Nessuno. Non è che ha detto prendi mia nipote, mai. No, io non ho dato nessun suggerimento. Mai nessun suggerimento. C'era, no, assolutamente. No, per carità, nella vita tutto è possibile, come dice Parenzo. Non c'era il gobbo. È arrivato Coldagelli. È arrivato il signor Coldagelli che è qui davanti a me, bello, abbronzato, reduce da Vedrò. Ma scusi, ma chi è il signor Coldagelli? Spieghiamolo un po'. Il signor Coldagelli è un amico della Zanzara, adesso lo passo così lo saluti, il signor Coldagelli, ed è qui ad aspettare, credo, il signor Walter Veltroni, che sarà alla 7, a in onda dalle 20:30 alle 21:10. Ma deve parlare di Kennedy oppure di altre cose? Parla di Kennedy. Se chiedi la Coldagelli, lo so. Dell'Africa, forse. Dell'Africa. Pronto? Sì, buonasera, signor Coldagelli. Buonasera. Siamo qui buonasera, c'è la signora Santanchè che vuole sapere perché Veltroni non è andato più in Africa, dove dice sempre le stesse cose, le stesse polemiche. Adesso gliela passo. Il signor Coldagelli è assistente personale del signor Veltroni. Signora Santanchè, vuole fare una domanda all'assistente personale del dottor Veltroni? No, non ho nessuna domanda da fare. Era una battuta che avevo fatto. Era una battuta. So che Veltroni ama molto l'Africa, mi ricordo qualche anno fa. Però è una cosa vecchia questa ormai, no? Vabbè, ma vecchio, no, e tra l'altro, le assicuro che Veltroni fa molte cose sul, per l'Afrika che non sono, non vengono pubblicizzate, ma questa insomma non era la sede per parlarne. Gli italiani possono conoscere meglio. Giusto, pubblicizziamo. Magari le faremo. Pubblicizziamo. Bene. Grazie, grazie. Bene, pubblicità. Torniamo subito agli ultimi minuti con l'onorevole Daniele Santanchè, sottosegretario all'attuazione del programma. Ci sei, Parenzo? Sì. Ci sono, sì. Sono andato un attimo a imparare a vedere mancava la lepia, Come ti manca? Libera. Vabbè, ho capito, è sempre Bossi. Libera, sempre Bossi che si. Via da Roma, Cruciani, ma fa culo Cruciani. Ma io abito a Milano da anni ormai, via da Roma. Ma Cruciani, ma fa culo. Pubblicità, via. Pubblicità. Lo stronzo è Cruciani. Bene, bene. Abbiamo saputo, però, abbiamo avuto una notizia, Parenzo, che Veltroni fa molte cose per l'Africa che non vengono pubblicizzate. Ci sono, ti dico una cosa. Sì, dimmi. Dove c'è Cruciani c'è notizia, sì. Dove c'è Parenzo c'è notizia. Quindi è evidente che apparentemente i nostri collegamenti surreali possono sembrare alle volte privi di notizie, come quando facemmo, quando raccontammo a Ponza la vacanza del signor Vespa, che non c'era, che non apparentemente non apparentemente. Però oggi le foto dimostrano che il signor Bruno Vespa in questi giorni è a Ponza. Vabbè, ho capito, ma questo non vuol dire nulla, cioè, non è che sia una notizia, però è una notizia che Veltroni fa molte cose per l'Africa che non si sanno e che forse un giorno sapremo, giusto? Questa è notizia per modo di dire, però insomma le sapremo al momento opportuno. Io sono curioso di sapere cosa ne pensa l'onorevole Santanchè di questa corsa alla leadership del centrodestra del signor Formigoni, che insomma ha passato un'estate, mi sembra piuttosto attiva da questo punto di vista, no? Un'estate molto sugli scudi, no, signor Santanchè? Cioè, una roba che insomma, abbiamo visto interviste, cioè, dalla famosa intervista con gli yacht dietro, molto criticata, poi da quel momento in poi c'è stata una sorta di continuo dichiarare notizie in interviste, e tra cui l'ultima in cui ha detto Berlusconi dovrebbe essere fatto fuori entro dicembre, poi l'ha smentita, ma in realtà è tutto vero, dovrebbe essere fatto fuori, comunque dovrebbe lasciare, fatto fuori no, insomma lasciare entro dicembre, perché così, solo così possiamo vincere. Anche lei è convinta che se Berlusconi lascia entro dicembre il centrodestra ha qualche possibilità di vincere? No, assolutamente, anzi, io mi auguro che Berlusconi stia ancora per moltissimo tempo, perché qua tutti fino parlano, fino al 2013. Però poi nessuno si occupa, voglio dire, di prendere i voti in questo paese. Beh, Formigoni ce li ha un po' di voti. Formigoni, il governatore, fa bene a rilasciare interviste, il governatore della Lombardia si deve occupare di un territorio molto esteso e quindi... Ma chiacchiera un po' troppo? Chiacchiera un po' troppo, dice lei, eh? Ma voglio dire, un bravo governatore, credo che ha fatto molto bene. Questo vabbè, questo è scontato che lei... Certo. Appunto, voglio dire, sì. Però... Chiacchiera un po' troppo. Non credo che... Chiacchiera un po' troppo, lo dica. Di Berlusconi, chiacchiera un po' troppo. Dire, mi spiace se pensa, poi per carità è umano avere ambizioni, ma mi sembra un po' troppo ambizioso questo progetto. Un po' troppo ambizioso sto Formigoni, eh? C'è un po' troppo... No, il suo progetto, non credo che Formigoni possa prendere il posto a Berlusconi. Ma i voti ce l'ha? Ma credo che lo sa anche lui, eh? Non è che glielo dobbiamo... Ma i voti ce li ha secondo lei? In Lombardia per fare il governatore sì. E fuori dalla Lombardia? E fuori dalla Lombardia... Non credo, fa parte di una minoranza. Minoranza. Cioè, tra lui e Alfano, lei chi è che... Beh, ma Alfano è leader nazionale, perché rappresenta il PDL. Ma poi sa, le leadership non si decidono a tavolino, sono gli elettori che decidono, per cui potremmo qua disquisire chi è meglio, chi è peggio, ma contiamo 3 voti, quindi molto poco. Senta, Alfano meridionale, non via Milano, Alfano meridionale, un terrore, Alfano via, omaggio a Poletta, Alfano. No. Beh, ho capito, Alfano sarà un meridionale, Formigoni non è il suo, certamente il suo pupillo, Bossi, ma lei, questi del PDL, ce ne sarà uno che le piace del PDL, chi le piace del PDL? Sei un cretino, Cruciani, sei un cretino. Sei legnate a Cruciani, un cretino. Ma come legnate? Non ho detto nulla, onorevole Bossi. Cioè, vabbè. Padania, libera. cristiana, vai musulmana, mai. Ma che c'entra musulmana? A un certo punto la signora... Pieno di musulmani. Ma che... Alfano, tutto scuro in pelle, musulmano, tutto abbronzato. È abbronzato. è un musulmano, l'ho visto io. È del sud, è un musulmano, è stata l'invasione dei musulmani al sud, no, c'è stata, al nord no. No, musulmani al nord, mai, la storia, mai, musulmani. è pieno di immigrati, i bossi, si convincono. Sono tutti a casa di Berlusconi a servire i tavoli con gli immigrati. Ma non c'è nessuno a casa. Tutti a fare buga buga, appunto, a casa di Berlusconi, servono i tavoli con la livrea. Solo a Narcore, a Gemone non c'è un caso di migrante, niente. Cruciale, dico solo una cosa, fa culo. Scusi, boss, adesso vi tolgo una curiosità, ma perché si porta suo figlio dietro ai vertici di governo? Scusi, così importanti per il futuro del paese. Mio figlio è nato in Padania, non è Alfano. Alfano anche come Alfano, che sembra un nome arabo, come Al-Qaeda. Alfano, nome arabo, è un arabo, al tutto scuro di pelle. Arezzo si chiama Arezzo, come Idrio, come il fiume, il dio Po, la Padania, l'Ampona. Maria cristiana, mai musulmana, mai Alfano al nord, mai. Vabbè, mai grazie, le abbiamo fatto divertire un po', sì, molto. Ma non mi avete parlato delle vostre vacanze, con che donne siete andate, cosa avete ma, fatto? Scusi, ma adesso questi sono cazzi nostri, detto sì. Proprio alla vostra. Perché, scusi, ma qua che parliamo così di tutto, non ci avete detto niente. Scusi, ma lei si è fidanzato ufficialmente o no? No, io non sono assolutamente. Gliela dica a Parenzo, sono libera. Come no? Libera. You are vacant. Cosa ha detto Parenzo? Che è vacant. You are vacant. Vabbè. Ma non è così. Le vostre vacanze. Ma non è così. Allora un attimo, adesso gliele raccontiamo tra un secondo, dopo il traffico. Un secondo ancora dopo il traffico. Beh, qui c'è notizia però, Parenzo, qui c'è notizia. Cosa è successo? Qui c'è è arrivato Ventoni alla 7. Vabbè, questo non ce ne frega niente, adesso abbi pazienza. È entrato ora. Vabbè, questa è alla 7, credevo venisse da voi Ventoni. No, e beh, questo nei prossimi giorni. Insomma, stiamo preparando. Stiamo lavorando. Perché dovete spolverare, pulire, mettere in ordine i bagni. Sì, sì. Perché scusi, per tutti lo dovremmo fare questo. Perché? Ma per Veltroni di più, è ospite, è forestiero, quindi capisco che ci vuole un minimo di preparazione. No, però se viene lei le facciamo trovare la pipì per terra. No, guardi, se vengo io pulisco, io sono bravissima a fare la casalinga. Ah sì? Questo una volta ce l'aveva detto, signor Sallusti ce l'aveva detto quando è stato nostro ospite. Problema. Quando è stato nostro ospite ce l'aveva detto questo, che lei è una donna alla fine molto casalinga, ce l'aveva riferito, ce l'aveva raccontato questo qua. Però mi pare che sia notizia qua, Parenzo, cioè la signora Santacchè ha detto "Io sono single". Questo sono single. No, io ho detto "Non sono fidanzata". Beh, non so, sì. Che è la stessa cosa. Ma abbiamo ripreso dopo la pubblicità, che è sacra, cioè a parlare delle vostre donne e voi parlate delle No, cose. Noi siamo andati a vedere il Palio di Siena insieme. Facciamo le vacanze anche insieme ormai. Siamo andati a vedere il Palio di Siena insieme, siamo andati. Signor Parenzo in realtà ha fatto poche vacanze. Io sono andato. Ma mi sposate? Beh, siamo una coppia di fatto, certamente stiamo pensando. Lei so che non è molto favorevole alle coppie di fatto. Per esempio, la signora Concia, lei sa che è andata a sposarsi in Germania, sì, no? Sì, no, non sono. E lei ha avuto delle parole, certo, non tenere. No, io perché ho detto rispetto sempre l'amore, che mi sembra una cosa importante. Sposarsi lo trovo una cosa alla quale non voglio abituarmi. Due uomini che si sposano, ma non mi voglio abituare neanche al matrimonio Cruciani-Parenzo. Sempre questo. Beh, sempre uomini sono, cioè, ho capito. Vabbè, ma non vorrei abituarmi. Siete due bei ragazzi. Però se noi ci sposiamo. Parenzo bello, alto. Beh, Parenzo bello, alto. Beh, qui siamo, diciamo, nel campo della diffamazione. Perché? Sì, scusi, Santacchè, se io e Parenzo dovessimo impazzire a un certo punto, no? E decidere di andare in Spagna o in Germania, paesi civili mi sembra, paesi che non appartengono al mondo dell'inciviltà, o sbaglio? Bravo. O sbaglio? Certo, assolutamente. Paesi civilissimi, no? Mancherebbe altro. Appunto. Certo. E decidiamo, a un certo punto diventiamo pazzi, ci prende così una cosa. Una mattana andiamo, perché ci innamoriamo, e andiamo in Germania. e ci sposiamo, fiori d'arancio, cose, l'ha fatto anche il presidente dell'ex presidente dell'Arcighe di Bologna. Dove è andato Parenzo l'altro giorno? In Spagna? Dove è andato a sposarsi? Mi pare che spesso, non so esattamente dove vanno i gay, no, insieme alla formarsi, visto i presupposti. Parenzo vada subito su internet a capire dove no, ma io sono orgogliosamente eterosessuale, però dopodiché sono favorevolissimo alle unioni gay, ecco, perché però si porti avanti, ma ecco, non è il mio campo, non è il mio campo quelle foto che ha viste pubblicate. Sarebbe come chiedere a Verdini di farsi processare, non è il suo campo. Ma no? Perché sei fissato con sto Verdini che si deve fare processare? Tu hai una fissazione qui con Verdini che si deve fare processare. Ma cioè, ognuno si difende come si difende, chi se ne frega. Allora, però signora Santa, che scusi, ma perché le foto, lei ha visto quelle foto della Concia e della sua compagna tedesca pubblicate? Le hanno pubblicate su tutti i giornali, cioè, assolutamente l'ho visto, e rispettando l'amore. Le danno fastidio quelle foto? Rispettando la libertà individuale di ciascuno. Vabbè, quello è chiaro. Non rispetto però il fatto che si venga meno a quella che è la visione che poi anche è scritta nella nostra Costituzione, che è l'unione tra un uomo e una donna. Ma quelli infatti io sono andati in Germania. Mamma, e non vorrei che domani nascessero dei figli che hanno due mamme o due papà, nel senso che c'è bisogno di avere due genitori di sesso diverso. Io quindi Gianna vengo... Nannini, quindi la signora Gianna Nannini, ad esempio, una grande cantante italiana, Gianna Nannini, faccia una fattua sulla Gianna Nannini. Perché deve fare una fattua? Perché? Beh, perché Gianna Nannini ha messo al mondo una bellissima figlia o figlio, non lo so, perché è lesbica la signora Gianna Nannini. Ha fatto un insieme. Sì, insomma, è abbastanza risaputo, insomma, mi pare. No, non lo so, non mi risulta se sia sposata con una donna. No, quindi. sposata. Ma credo l'inseminazione eterologa. Beh, insomma, è una cosa che lei. Un'operazione da qualche parte, non mi ricordo. Gli ha dedicato anche l'ultima canzone dell'album, peraltro, a questa bambina. Penso che insomma fare un figlio sarà cosa più bella che possa succedere a una donna. Insomma... Non mi risulta che si sia sposata, non mi risulta che abbia fatto questa figlia insieme a un'altra donna, ma comunque voglio dire, io quello che ripeto è che non mi voglio abituare alle foto di matrimoni con tanto di fiori d'arancio, con tanto l'Ave Maria di Schubert, non mi voglio abituare perché voglio ancora resistere e guardare indietro, perché oggi trovo che la punta più avanzata della modernità sia guardare indietro nel tempo, che ci si sposa un uomo e una donna, si fanno dei figli. Ma quando ha visto quelle foto, che mi dica la verità, è rimasta, è rimasta un po' impressionata. Quello che le sto descrivendo, sono felice che si amano, perché l'amore deve sempre vincere, bene che si amano, però il matrimonio, le ho ripetuto prima, gli ho cercato di dare una provocazione, la mia è stata? Visione, che non... ma una provocazione, un'ostentazione, io sono per, se dobbiamo rivedere tutti i diritti individuali, che sono assolutamente d'accordo che ogni individuo deve avere gli stessi diritti, ma non riconoscere all'omosessuale i diritti di chi è sposato, ma come non vorrei nemmeno per gli eteri. Cioè, se uno decide di vendere le foto, scusi, è legittimo vendere le foto, vendere, poi in realtà non hanno vendute, ma insomma fare le foto... Scusi, ma neanche per l'etero, perché chi si sposa prende un impegno, un sacramento, il matrimonio, dove ci si impegna in un certo modo, e chi non si sposa e che ha delle convivenze non può avere le stesse cose, perché l'impegno è diverso, e capisce? Per cui voglio dire, io non è che gli omosessuali o gli eterosessuali, il matrimonio è quello, e quindi si acquisisce certi diritti. D'accordo. Tutto. Ma le foto, voglio capire le foto, se secondo lei il fatto di aver scelto di pubblicare le foto... credo senza guadagno, di aver letto senza nessun tipo di guadagno. Ma scusi, la Concia fa la sua battaglia politica, la sua battaglia a favore degli omosessuali. Dunque è una cosa che serve alla battaglia politica. Quindi voglio dire, la battaglia politica della Concia giustamente ha fatto del marketing politico. Su questo onestamente non è che io la possa dire chissà che cosa. Eh beh, no, ci mancherebbe. Lei fa una campagna, ha fatto del marketing politico, ha deciso di fare così e portare avanti la sua battaglia. La mia battaglia è quella opposta a quella della Concia, esattamente opposta. Bene, grazie, buona serata. Grazie. Le donne non mi avete detto niente delle fidanzate. Ma noi non siamo famosi. Io non vengo al matrimonio. Ma non siamo famosi come lei. Non siamo famosi. Ma non siamo famosi come lei. Non siamo famosi come lei. Di più. Però il vostro matrimonio non ci vengo più. No, punto, però se, punto che se già c'è stato, io e Cruciani dovessimo sposarci, ci faccia questa promessa: come regalo di nozze ci fa fare il bagno con Sallusti. No, ma perché? Dovete chiedere a lui. Ah, perché anche lui dite che no. Perché questo assolutamente questo lo sa meglio lei. Questo lo sa meglio lei. Mi state dando delle notizie assolute. Questo lo sa meglio. No, come regalo vorremmo fare. Questo lo sa meglio lei, però, di noi, delle questioni che riguardano il signor Sallusti. Così, no, perché Parenzo mi sta dicendo delle cose che io non conosco. Però sa, no, ho detto che vorrei come regalo, per ritornare all'articolo del fatto, questo ho detto come regalo. Come vuoi entrare al Twiga gratis? Vabbè, ho capito. Signora Santa Chiara, vabbè, lo facciamo entrare. Ha capito, lo faccio entrare al Twiga gratis. Così fa una bella, una bella botta di vino. Così quando vengo alla Zanzara, poi insomma, parliamo del bagno. Ecco, una bella botta. Ma come in costume, Parenzo? Cosa metti? Beh, c'è un po' di pancia. C'è un po' di pancia. C'è la pancia? Sì, c'è la panzetta. Sì, allora bisogna che lo porti un po' a correre prima. C'è la panzetta, sì, lo porti. Vabbè, lo metteremo in forma. Una bottiglia di champagne al Twiga, quanto costa? Non lo so, perché io non bevo, sono astemia, non bevo champagne. Se dovessi proprio bere qualcosa, berrei dello spumante, perché i francesi non è che li amo molto, e quindi preferisco dare i soldi agli italiani. Grazie, viva Giorgio, grazie da Milano, buonasera. Buonasera, signor Giorgio, dica. Buonasera Cruciani. Sì. Io sono uno dei milioni di indignati italiani. Che è successo stasera? No, è successo che ascoltare la vostra trasmissione, leggere i giornali, seguire i telegiornali e vedere come la nostra intelligenza politica sta cercando di risolvere le sorti del paese, veramente mi fa indignare. Tant'è che assolutamente io non mi sento rappresentato né da sinistra né da destra, perché in questo momento il livello di intelligenza politica è veramente ai minimi. Tant'è che io vi faccio una domanda sibillina, vi chiedo: ma così come usano le grandi squadre calcistiche o anche le grandi corporation, tra l'altro io ci lavoro, usano assumere a tempo determinato dei seri professionisti, delle serie persone che hanno un bagaglio di cultura e di esperienza tale da risolvere dei problemi fondamentali. E quindi, ma perché non assumiamo a tempo determinato dei ministri tedeschi, olandesi o svedesi che vengono e ci aiutano? Ma si metterebbero le mani nei capelli dopo due secondi. Borsa, torniamo subito. Siamo qui, volata finale, fino alle 9 per la Zanzara, soprattutto con gli ascoltatori. Caro Parenzo, è arrivato Veltroni? Sì, state iniziando lì. Tutto in postazione, infatti. Adesso vedremo, c'è la pubblicità. Sono qui in cabina di regia. Farà intervento fondamentale questa sera. Cioè. Beh, no. Cambia il paese. Parla Veltroni. Veltroni sui Kennedy, questo è punto. Il punto vero. Ne parlano anche per strada, insomma. Sì, no, ma anche prima mi hanno fermato e mi hanno detto: ah, cazzo, avete Veltroni? Ah, bene. La famiglia Kennedy, ma no, è importante. Comunque, andiamo avanti. Giuseppe da Salerno, buonasera. Mi vuoi rovinare, però. Buonasera, Cruciani. Sì, dica. Senta, io ho chiamato prima perché mi sarebbe piaciuto. Ma Boss è caduto la linea, adesso poi la riprendiamo. Fra un minuto la riprendiamo. Boss è caduto la linea. Quando stava parlando con Castelli con lei. Sì, sì. No, perché l'ho sentito ieri sera alla 7 dalla trasmissione in onda. Ah, era ospite alla 7 in onda. Sì. E lui ha gli effetti, diciamo che, vabbè, da sempre, non dall'ultimo, da poco tempo. Sembra di essere quello nato con senza peccato originale, insomma, perché si mette via e parlava delle evasioni in Calabria, in Sicilia, eccetera. Però non ha accennato all'evasione di 100 milioni che hanno frodato al fisco lì nel polo conciario di Arzignano. Quella conceria la Mastrotto. Cioè lei dice l'evasione dal punto di vista poi di sostanza, di numeri, è vero che come percentuale è superiore al sud, ma come numeri naturalmente al nord, perché è evidente i soldi ce ne sono di più al nord, dunque c'è maggiore evasione al nord. Può darsi che al sud per 100 milioni ci vogliono tutte le aziende che sono nel sud, lì ne basta una per farlo. Poi di questo non se ne parla. Va bene Giuseppe, grazie, ma non è questione di territorio, è anche una questione di territorio, per carità, perché poi al sud ci sono tantissime cose che non funzionano, come sapete, ma sto dicendo una cosa di una banalità talmente grande che mi vergogno di averla detta. Luciano da Trento, buonasera. Buonasera, come va? Bene. Bene, sono contento. Ho sentito prima la signora Santanchè. Sì. Fantastico. Bellissima. non ho più parole, sono rimasto ammutolito. Perché lei è proprio l'unica che non è stata eletta alle ultime elezioni, guarda caso è sottosegretario. Per forza, non vuole mandare via Berlusconi, se no come ha fatto a andare in Parlamento? A essere sottosegretari, noi, per essere sottosegretari non bisogna essere forza parlamentare. Lo so, ma siccome lei parla come se fosse sempre stata eletta, come se lei che si mette a discutere con gli elettori, per gli elettori, vabbè, lasciamo perdere quella gente lì. Poi capiamo perché ogni tanto l'Italia, a questi momenti, gente come noi, sono le 8:35, io mi sto facendo da cena uno yogurt e dalle 6 che sono in giro a lavorare e sento questi che parlano e parlano e parlano e parlano e parlano e parlano e parlano e parlano. Fine. Vabbè. Allora, solo un'ultima cosa. Volevo solo dica l'ultima cosa. A fare un mondo di auguri a una persona italiana che reputo una tra le più conosciute, tra le più amate, che è Vasco Rossi. Dai Vasco! Bah. Penso che tutta l'Italia... Scusi un attimo, Parenzo. Scusi, dove si trova lei? Dove si trova lei? Scusi. Signor Luciano, dove si trova esattamente? Luciano? A Trento. Trento in, Trento, zona? Casa. San Pio Decimo, ecco. L'ambulanza, benissimo. Mi fa le dediche come a radio. Dopo aver sentito la Santa, che è il minimo che mi può capitare. Sì, ma lì l'ambulanza in alcuni casi è incorporata, cioè non c'è bisogno di chiamarla. Mi fa le dediche come a radio Bubù, amico mio. Lasci perdere che Vasco non è proprio uno che... Ma ci vuoi ammazzare la trasmissione? Siamo mica radio Bubù. Ciao mamma. La trasmissione, perché io faccio gli auguri perché Vasco si rimette, o perché ci sono dei personaggi come la Santa Anche che passano la vita a truffare gli italiani eppure sono ancora lì che parlano. Ma chi truffare? Ma io non lo so. Truffare, ma hai già ragione, truffare è una parola troppo gentile. Siamo calmi. Sono calmissimo, Mario. Calmissimo. Adesso lo sarà ancora di più. Però adesso gli auguri a Vasco, uno potrebbe dire pure chi se ne frega, insomma, adesso certo, caro Luciano. Certo, cioè, la mia reazione è di dire chi se ne frega, per carità, io faccio gli auguri a tutti quelli che stanno male, non in particolare a Vasco Rossi, lei li fa a Vasco Rossi perché ama Vasco Rossi ed è normale. A me piace. Ed è normale che sia così. Forse perché io penso che se la gente in Italia fosse un po' più sincera, soprattutto i nostri politici. Che c'entra Vasco Rossi con la sincerità? Che c'entra Vasco Rossi con la sincerità? Scusi, non ho capito. Ma c'entra, può c'entrare. Cioè, sì. Un artista inteso come tale, che è sincero. Uno scrittore normalmente è sincero. Deve durare così nel 30-40 anni perché deve aver avuto un rapporto di sincerità con se stesso. Cioè, se arrivasse al governo Vasco per No, le cose andrebbero enormemente meglio. No. Io ho detto, se arrivassero al governo delle persone più sincere di quelle che abbiamo adesso, molto probabilmente le cose andrebbero meglio. Sincere nel senso buono della cosa, sincera. Come cioè, Vasco Rossi. Secondo me lui come artista è un artista sincero. Quindi il quartiere è sempre San Pio Decimo, no? Sempre, me ne mandi tre di ambulanze. No, no, una basta. Non siamo, la situazione non è grave, però va controllata. Ah, no, siccome ho anche due cani, magari anche loro. No, vabbè, va controllata. La situazione è un controllo, non è che l'ambulanza arriva sempre per portare via. Per lei ci vuole un semplice controllo, tutto va bene. Probabilmente diranno che tutto va bene, Parenzo, da quello che sento. Faranno un check rapido, magari le mettono una camicetta provvisoria con all'acciatura dietro. Scollata la camicetta. Sì, esatto. Poi magari dietro su davanti. Guardano se c'è troppa musica di Vasco Rossi nel coso, potrebbero pensare ad una piccolissima. La musica ce n'è tantissima, non solo di Vasco, ce n'è tanta. Quello sì, perché senza musica, senza arte, soprattutto in una nazione come la nostra, sarebbe davvero molto triste. Baldo, da Pistoia, buonasera signor Baldo. Salve, buonasera. Buonasera signor Baldo, dica. Mi perdoni, avevo il telefono un po' lontano, meno distratto. No, ma non, distrarsi fa parte della normalità, della quotidianità, della... Molto bene, io volevo innanzitutto complimentarmi per la sua trasmissione e soprattutto anche per il suo stile di conduzione, che consente a tutti di esprimere le proprie opinioni liberamente, senza appellarsi a tempo che manca o liquidare velocemente le opinioni. Dipende, in alcuni casi succede. E allora io volevo dire questo, che alla luce di quello che è accaduto oggi La sua dichiarazione questa qua. Alla luce di quello che è successo oggi, credo che il cittadino medio è piuttosto disorientato. Alla luce di quello che è successo oggi in particolare, che è successo oggi in particolare? Praticamente il governo ha fatto l'ennesimo passo indietro. Sulla questione delle pensioni, la reversibilità, i militari, tutte queste robe qui, no? Esatto. Dimostrando ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, che le idee chiare non ci sono, anzi tutte le varie componenti della maggioranza, a mio avviso, non fanno altro che tirare acqua al proprio mulino, cioè fanno una proposta che ha finalità, che ha come finalità non l'interesse generale ma soltanto il ritorno elettorale, il consenso politico, poi c'è sempre un'altra componente della maggioranza che non si ritiene d'accordo con quella di prima, quindi... abbiamo capito, insomma c'è alcuni che fanno... ci sono diatribe all'interno della maggioranza. Vabbè, insomma, adesso lo sappiamo da anni, è sempre stato così in tutte le coalizioni, non c'è nulla di diverso. La situazione economica e finanziaria, alla luce anche della nostra partecipazione all'Unione Europea, è talmente grave che ci sarebbe davvero bisogno invece di idee chiare e di una strategia, soprattutto economica, finalizzata al... Sì, ma Roberto, non mi faccia la dichiarazione ufficiale, però, sta facendo la dichiarazione ufficiale, cioè... Ora, alla luce di questo... alla luce, sì. Praticamente, ritornando alla trasmissione di ieri, perché io ho telefonato ieri per parlare con lei, mi sembra di avere capito che lei non è molto d'accordo con... Su che cosa? La tassazione ulteriore dei patrimoni scudati, cosiddetti scudati. Ho capito male? Sì, ma lo dico da giorni questo qua. Ma praticamente magari ieri ho perso un po' la trasmissione, ma per quale motivo lei sarebbe contrario a questa ulteriore tassazione? Oddio mio, perché c'è un patto che è stato siglato con un patto anche scellerato, eccetera, eccetera, che è stato siglato con delle persone e non si può, come dire, violare questo patto. Gliela metto così. Cioè moralmente. No, ma lo Stato non può rimangiarsi un accordo che ha fatto, punto, secondo me, anche se scellerato. Questa sua opinione la condivido particolarmente. Questo l'ho capito che non la condivide particolarmente. E le spiego il perché argomentando. No, perché non me lo spieghi perché siamo già troppo lunghi. Qualsiasi manovra straordinaria come quella di cui stiamo parlando, è chiaro che lede degli accordi preventivi. Anche il toccare le pensioni non lede un accordo tra il cittadino. Ma questo è un buon argomento, è un buon argomento, diciamo che... Poi la sovranità dello Stato consente anche di violare gli accordi, quando c'è un interesse generale. Sì, no, ma guardi che io non sono così, cioè non sono tetragono su questo, ho la mia idea che in genere lo Stato, quando sigla un patto che è diverso da quello dell'età pensionabile, che può essere alzata naturalmente, dovrebbe rispettarlo, soprattutto quando si tratta di cose così delicate come rientro di capitali, cose che di persone che Parenzo definisce dei ladri. Paolo, provincia di Milano. Non c'è dubbio alcuno. Sera in Cruciani. Pronto? Dica. Sì, buonasera Parenzo, se c'è ancora. Perché volevo fare complimenti a Parenzo. Che è successo? Che è successo? Ho guardato i nomi dei deputati, sono qui davanti, i nomi dei deputati e dei ministri. Brambilla, Europa del Nord, ma Prestigiaco, il Sud, vedi, si chiama con tutti i Presti, sempre Presti ti devi fare, Presti Giacomo. Ah, ma no, scusi, che c'entra? Stai zitto, cretino. Brambilla è un nome del nord, Brambilla, sul sur Brambilla, Presti Giacomo, sempre questa idea del prestito, del denaro che devi dare a Giacomo, non presto niente a Giacomo, Presti Giacomo. No, Presti Giacomo, è un nome, il ministro del sud. Del sud, di Siracusa, siciliano, sì. Presti Giacomo, capito? Sì, ho capito. Anche il nome, altri nomi, Swan Sbai, ad esempio. Sì, ma quello è del PDL, è un deputato del PDL. Mazzucca. No, cognome bruttista al sud. Ma che Bossi è bello come cognome, scusa. Celtico. Celtico, straguadagno, nome del nord, perché si guadagna al nord, come al sud. Presti Giacomo, sempre chiedere prestiti al nord. Presti Giacomo. Ho capito, dunque ha fatto questo ragionamento sui nomi. Alfano è un arabo, te l'ho detto. questo non è male, non c'ho capito. È un califfato, Alfano, del califfo di Alfano, tutto scuro e bello Alfano. Nero, si è abbronzato per me. Non è abbronzato, è come se tu al nord della montagna, dei Tremonti, nome del nord. Vabbè. Alfano, cioè, Alfano, beh sì, certo, è del sud, infatti. Regnate i giornalisti, vaffanculo, cuci. Basta, sono le 24 ore. C'è il sole 24 è la Confindustria, ore. Scusi. La Confindustria, il sindacato, anche la Confindustria. Anche il sindacato, sì. E la Lega, il sindacato padano, col Simpa, il Simpa, la Rosimauro, il Nord, la Padania Cristiana, e mai, ricordati, mai. Ricordo, sì, mai. Cruciale, Cruciale, ho cretino, ho parlato prima con Cruciale, alla radio. È ancora con me alla radio. Con la Brambilla. Da bel nome nel nord, Brambilla. Ho capito, boss. Anna Grazia Calabria, cognome del sud, Calabria, capito? Effettivamente. La Calabria. Ma certo, sono persone del sud, infatti. No, il nome è un nome, credi che sei cretino, proprio sei del sud, sei di Roma. Calabria è un cognome. Cazzola, ad esempio, come fa uno a chiamarsi Cazzola? Cazzola del sud, Cazzola. Non so, Cazzola non può esserci, Cazzola al nord, non c'è, c'è Cazzuola al nord, non Cazzola, non c'è. Vabbè, d'accordo, abbiamo capito, grazie onorevole Bossi, traffico. Trovate Guzzanti che imita Di Pietro? Un secondo. Guzzanti che imita Di Pietro, perché voglio rimettere Di Pietro di oggi, che è stato strepitoso. Che è uguale. E che ritorna, come ci ha suggerito ieri, il signor Pardo, no? Signor Pierluigi Pardo. Mito assoluto, giornalista di Mediaset. Un grande, ma lo salutiamo, Pardo. Salutiamolo, sì, è in viaggio in macchina, che te lo salutiamo. È una brava persona, signor Pardo. Ma adesso che c'entra una brava persona? Sì, no, sì, è certamente una brava persona. Un grande tifoso. Grande imitatore. Grande imitatore. E ci ha detto l'uomo del nord, Pardo. No, è di Roma, veramente. No, tu capisci niente. Ma è di Roma, è di Roma. No, è di Roma. Non è di signor Roma. Bossi, le dico che è di Roma. No, è di Roma. È di Roma, Pardo, è di Roma. Non è di Roma. Ma uno che ad esempio si chiama La Morte, Donato La Morte, non è del nord, La Morte, è del sud. È un altro di cultura, lui diceva Lo Presti. Ma come Lo Presti? Lo copri se mai. Signor Lo Presti, tutti i deputati del sud. Presti, dice, presti sempre soldi da prestare, da chiedere. Presti Giacomo, appunto. Da dove viene Presti Giacomo? Da Sicilia, non troverai mai uno a Torino che si chiama Presti Giacomo. Ho capito, beh, certo, è difficile. Magari sì, perché sono del sud, però. Non è possibile, un cretino. Le legnate bisogna darti, fate capire le cose. Le legnate ho capito. A tutta la radio della Confindustria. Anche a Parenzo, di Padova, Parenzo. A Parenzo, ma che no, con quel cognome lì, verrà da una città lì, Parenzo, è fuori dalla Padania, tra Jugoslavia, via, secessione, anche lì, via. Vabbè. Via dalla Jugoslavia, andiamo via. Alessandro da Milano, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Io buonasera. Umilmente sì. Volevo fare una critica alla vostra trasmissione. Ottimo. Sono un ascoltatore della Zanzara da parecchio tempo, sì. E ho nostalgia di quella trasmissione di approfondimento politico serio. Mai fatta la trasmissione di approfondimento. Non è vero, mai fatta trasmissione di approfondimento. Faceva una trasmisione di approfondimento. Mai fatta, beh scusi, ma lo so, però io so fatto che cosa ho fatto, oppure lei mi vuole, come dire, vuole fare l'esegeta di quello che ho fatto nella vita, abbia pazienza. No, non ho mai fatto una trasmissione di approfondimento politico la sera, non ho mai fatta, mai. Va bene, allora mi sbaglio io e ritiro la critica. Io ero affezionato a quella trasmissione. Vabbè, sarà affezionato a quella trasmissione. Cosa vuole che dica? Ma mi permetta la critica. Ma il tempo che si cambia, tutto cambia. Ma tutto cambia, ma è diventata una trasmissione cacciarona. Chi se ne frega, certo. Se arriva a 300 all'ora in Germania. A lei non gliene frega niente, ad altri frega. Se la vi, tutto cambia, tutto cambia. La gente cambia, le persone cambiano, gli ascolti cambiano. Caro Alessandro, cosa vuole che le dica? Gli ascoltatori cambiano. Anche, possono cambiare, possono tornare, se ne possono andare, possono aumentare. Io ero affezionato a quella trasmissione precedente. Sì, poi tutti quanti dicono si stava meglio quando si sta. È sempre così la storia. Uno è sempre affezionato a quello che c'è prima, no? C'è sempre questa cosa. Però di dai, è cruciale, nostalgica. Lei una critica la deve accettare. Ma io la accetto, la sto lasciando. Ma guardi, chiamano persone ogni sera per dire la stessa cosa, poi naturalmente continuano a seguire, come è evidente. Esatto, sì, però è cambiata. Ma che novità? Ma che cosa nuova che ci sta dicendo? È cambiata la trasmissione. Ma è una cosa strana questa che sta dicendo, caro Alessandro. Vi invito a tornare a essere quelli che eravate. Due bei giornalisti pungenti e puntuali nelle critiche. Lei vuole sapere oggi le notizie che abbiamo prodotto, così tanto per... Ma io ho sentito mezz'ora di imitazione di Bossi, noiosissima. Noiosissima, va bene, lei si è annoiato, altri si sono divertiti. Come della Sant'Anchè di Cruciani. Sì. Io mi ero affezionato a una trasmissione... culturale e politica con due persone culturale e politica. Mai fatte trasmissioni culturali e mai fatte approfondimento politico. Non si deprima. No, ma io non mi deprimo per niente, guardi, sono contentissimo. Per cui non... L'ultima critica e poi mi taccio. Prego. Lei è un fuori classe alla radio. Caso. Sì. In televisione che ci va a fare a controcampo? Che ci va a fare a controcampo? Mentre Parenzo mi sembra un fuor d'acqua in radio ed è un van Basten alla televisione. Bene, Alessandro, ha detto tutto quello che doveva dire. Ci ha sistemato tutti, arrivederci. Giacomo da Roma, buonasera. Sei sulla Repubblica.it, lo sai? Buonasera, Cruciani. Sì, dica, sì, lo so. Senta, io innanzitutto dico tre cose telegrafiche: di citare su Google rettiliani e di citare Scechini, che così ci si inizia a svegliare dal sogno della matrice lunare che, no, scusi, come dire, appesta le coscienze e gli animi. Non ho capito, scusi Giacomo. I rettiliani, chiedo a Parenzo, che lui sicuramente li conosce, perché anche... I rettiliani, come dire... come no, sì, feci una puntata io, una cosa fantastica. I rettiliani, adesso però, non, siccome io non voglio mandare più ambulanze questa sera, perché sono esaurite e poi servono per... No, cose. Guardi, allora dico quello che volevo dire, perché i rettiliani e le scechimiche. Sì, però aspetta, scusi, prima di iniziare questa discussione che sarà lunga e approfondita sui rettiliani e le scechimiche. No, non approfondisco. E cosa, perché ha iniziato con... le controlli lui su Google? Sì. Perché perché dovrebbe perdere tempo ad andare su Google a comporre la parola rettiliani? Ma solo per curiosità, Cruciani, lei è un giornalista. Ma io lo so benissimo. Qual è la... Perché ha così paura che si scopra chi sono i rettiliani? E chi sono? Non me lo dica lei in sintesi. Ma chi sono? Sono delle razze ibride umano-aliene che controllano tutti gli affari mondiali, che vuole che siano. E lei è uno dei... come dire, delle tante persone che i rettiliani usano perché guardi, per esempio la Deborah Rosciani, una persona devastata dai rettiliani, mi spiego. Lei che sta vivendo, lei è molto, una situazione molto grave secondo me. No, così, no. La signora Rosciani, conduttrice di Radio 24 qui. Sì, io sono preoccupato, io la conosco bene, fa anche lì il salvadanaio adesso. Molto brava, tempo. Molto brava, molto competente. Ma infatti è molto brava nell'ottica dei rettiliani. Nell'ottica dei rettiliani, benissimo. No, la situazione è gravissima. Mi faccia parlare 10 secondi, ma lei si rende conto che la signora Rosciani parla che le borse stanno giù, stanno male, hanno superato le borse? Cioè i capitalisti che per ideologia proprio liberista dovrebbero, come dire, accettare il rischio dell'investimento finanziario, poi le borse stanno giù, e perché le borse stanno giù si massacrano le pensioni degli italiani, e voi siete tutti asserviti a questo meccanismo perverso e pervertente, per cui addirittura se le borse già vanno giù si deve massacrare il popolo. Ma chi se ne frega, quanti sono gli italiani che hanno investimenti azionari? Ma neanche mezzo milione. No, ma questo è un altro ragionamento. Ma scusi, i rettiliani perché? Allora lei dice che chi sostiene questa cosa è... Sì, siete devastati dai rettiliani, siete devastati dalla logica. Guardi, Tremonti, altro rettiliano, perché è un altro esecutore della BCE, cioè Parenzo, di Rockefeller, è tutto a posto qua, sì. E di Rothschild. Ma è una cosa, io sono basito proprio. Quando si parla di solo vende il rettilianesimo in Italia, ma poi vende anche l'antirettilianesimo, perché dice: ah, voi, noi siamo antimercatisti. I rettiliani sono persone che non hanno empatia umana, non hanno il cervello mammaliano. Sai che questa teoria qui è già, signore? Sì. E questa, io la definisco follia, del signor David Hitch, che è uno dei, un inglese che si occupa di tutte queste robe, di chi governa il mondo, dei complotti, delle congreghe. Allora, tutte queste strepitose, detto con rispetto, stregonerie, puttanate, trovano come dire, il loro mare magnum nella rete, in internet, quello si alimenta, dice, ecco i nomi dei rettiliani, ci vedo dentro Bush, tutti quelli che hanno avuto ruoli in carica di governo. Certo. Ecco, questa è la teoria di questi signori. Lei comunque dove si trova in questo momento? A Roma, credo. A Roma, Lorenzo, i rettiliani sono reali, come sono reali purtroppo le scie chimiche, queste scie che appestano l'aria perché ci vogliono dentro della paura. Una risata di settimila. Noi non abbiamo più paura, ci stiamo svegliando, noi siamo coscienza infinita, noi facciamo esperienze di Giacomo, di Giuseppe, di Davide. Ma non tutti dovete uscire dal concetto di separatezza dell'io, dal tutto. Siamo tutti uniti. La situazione è gravissima. Io penso che un ricovero 4 non sia sufficiente. Dobbiamo amarci. Ha ragione. Guarda, poi voglio dire una cosa per la signora Lì. Dobbiamo amarci. Rosciani. Santanché dovrebbe capire che i musulmani sono contro gli omosessuali, quindi lei dovrebbe fare uno scatto avanti, lei, non guardare indietro, e capire che è compito delle destre europee, come hanno fatto negli altri paesi, quindi è una destra italiana, difendere i diritti delle persone omosessuali. Io voglio comunque dire, ho chiamato per questo, adesso dal 7 ottobre. Ma io sono rettiliano? No, lei no, lei viene utilizzato dai rettiliani. Vengo utilizzato dai Parenzo invece? Parenzo? Ma Parenzo anche per questioni genetiche, sicuramente. Ma che genetiche? È rettiliano perché ha qualche... è ebreo, Perché è ebreo? Genetiche, quindi. Genetiche, dunque, evidente. Ma lei è... io veramente... spero che scherzi. Ma lei è completamente pazzo. Parenzo, com'è possibile che lei a 20 anni era già giornalista? Non è possibile. Lei era clinicamente pazzo. Lei è clinicamente pazzo. Va bene, io sono pazzo. Guardi, dal 7 ottobre parte uno... Che parte? E parte l'Istat, parte il censimento, loro chiedono, noi cosa addirittura in questo censimento, io ho questi moduli, e che chiedono? Chiederanno, caro Cruciani, se lei fa l'amore con Cruciani o con una donna, cioè non credo proprio, Parenzo oppure con una donna, cioè con una persona dello stesso non testo. Credo proprio, guardi, non credo proprio. Ci sentiamo domani, però lo voglio richiamare il signor Giacomo da Roma domani, perché voglio capire bene questa cosa dei rettiliani. È un'ottima idea. Ci sentiamo domani 18:30, ciao. Cruciani va a far culo, non sono sui Cruciani. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.